Luciano, posso farti una domanda? Mi piacerebbe che tu facessi una trasmissione una sera, una puntata, su qualcos'altro che la politica. Parliamo di Parenzo, un'idea di estetica, di cosa, ma anche di figlio, non so io. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma io non ci credo, questa non può essere vera, è una gran balla. È una gran balla, sì. È una gran balla. No, io non ci credo, questo non può essere vero, è una gran balla. È una gran balla, sì. No, io non ci credo, questo non può essere vero, è una gran balla. È una gran balla. Il Consiglio dei Ministri oggi ha approvato la fine del finanziamento pubblico dei partiti come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi. È un passo importante, l'avevamo promesso e abbiamo mantenuto questa promessa. Passiamo oggi a un sistema... Ci stanno prendendo per il culo, ci stanno prendendo per il culo un'altra volta, non è vero niente. Innanzitutto c'è un disegno di legge in Parlamento con tutti gli emendamenti. Dirigenti dei due principali partiti, PDL e PD, dirigenti importanti, dicono che invece c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di correggere, che sono contro il finanziamento, contro l'abolizione del finanziamento pubblico. Dopodiché c'è tutto un sistema di detrazioni che sostanzialmente vuol dire che ancora una volta qualche soldo esce fuori dalle tasche dei cittadini. E la questione del 2 per 1000, che è simile all'8 per 1000, che potrebbe addirittura portare per paradosso a dare più soldi ai partiti, ci stanno prendendo per il culo. Ci stanno prendendo per l'ennesima volta per il culo. Poi scusate, la gradualità, no? Uno dice gradualmente bisogna arrivare all'eliminazione, ma scusate, quando aumentano le tasse, non è che te le aumentano, dici però dobbiamo dare il tempo alle famiglie di mettere a posto i loro budget familiari perché aumentano le tasse, dunque ci vuole gradualità. No, l'IMU te l'hanno messa subito, altre tasse te l'hanno messa subito. Perché con i partiti ci vuole gradualità? Perché bisogna arrivare in 3 anni? Perché? Sentiamo il tesoriere del PDL, Bianconi. Bianconi che dice? Bisogna controllare tutti i costi, noi abbiamo già disdettato tutte le sedi, 120 sedi. E nazionale, da quella nazionale, quelle regionali, abbiamo anche noi il problema del personale esattamente nel numero che c'è l'ARPT. Qualcosa faremo, ci aiuteremo da noi o ci aiuterà la Madonna di Medjugorje. Ci aiuterà la Madonna di Medjugorje, no? Vi aiuteranno i vostri dirigenti in Parlamento. A smontare tutto. Sposetti, con questo finanziamento siamo in Sud America, no? No. Le linee approvate dal governo venerdì scorso, vediamo oggi che cosa fa. Io mi auguro che ci sia saggezza all'interno del Consiglio dei Ministri, porta l'Italia fuori dall'Europa. Non vedo perché dobbiamo andare fuori dall'Europa e andare in Sud America con procedure di finanziamento che non sono assolutamente democratiche. Credo che questo non può essere vero, è una gran balla. È una gran balla, sì. No, io non ci credo, questo non può essere vero, è una gran balla. È una gran balla. Siamo qui, 800 24 00 24. Parenzo, ci sei? Ci sono, ho ascoltato silenzioso questa sua prolusione inutilmente polemica, visto che non hai ricordato, caro direttorissimo, alguna cosa, poi mi taccio perché abbiamo tempo, fino alle 21, ricordiamo... non fare polemica. Sì. Allora, l'unica cosa che hai fatto bene a fare le tue cose, l'unica roba che dovevi ricordare e non lo hai fatto, come al solito, è che ad esempio il Partito Democratico ha già chiesto la cassa integrazione per i propri dipendenti. Ma che vuol dire? Che cosa vuol dire questo? Ma avremo tempo per discuterne. Che evidentemente, siccome le entrate che lo Stato garantirà ai partiti sono molto inferiori rispetto a prima, è una piccola rivoluzione, un inizio di piccola rivoluzione. Vabbè, ha parlato l'amico del Partito Democratico, su. Brunetta, Grillo è come Crono. I candidati in campagna elettorale. Si vede subito come va a finire l'antipolitica. Grillo mi sembra come Crono, che mangia i suoi figli, siano figli giovani, giovanissimi, giovinetti con lo zainetto o anziani e attempati ancorché onusti, ancorché di grande carriera, e lo dico con grande rispetto per il professor Rodotà. Poi gli occhi miei si aprirono alla rivelazione, nella stagione dell'ormone. Mi trovavo al centro di un'invasione, culi in ogni direzione. Culi qui, culi là, culi su, culi giù, aiuto non ne posso più. Culi su, culi giù, culi qui, culi là. Il culo non mi dispiace, perché quando guardo da dietro una ragazza io guardo sempre il culo. Però mi hanno detto che quello, anche questo non quello, si può dire. Quello mi sembra una cosa ottima. Quello mi sembra una cosa ottima. Professore, ma perché? Un professore non può guardare le ragazze, non può guardare il culo delle ragazze? Professore, quella barba, tutto anziano. Non so cosa sia, bravo, sei... perché adesso se guardi il culo di una ragazza, capace pure che ti accusano di femminicidio. Ma professore, sì, però... sai, perché magari ti sei fatto chissà quale idea, magari invece ti piace proprio il culo. Perché esatto. Cioè lei guarda sempre il sedere delle signorine. E certo, ma scusa, ma se lei s'azzarda, però ti capita, guardi. Voglio dire. Giusto, ti capita. Ma la sua età. Ma perché? Qual è il problema? Non ho capito. Ma, ma perché tu vuoi la soppressione? Poco fa è stato ospite dalla D'Urso il professor Becchi, hanno rimandato questo audio e poi hanno detto che siamo stati noi a utilizzare la parola femminicidio. E no, cari miei, avete sentito? Per ben due volte il professore Becchi mette insieme il fatto che guarda il culo delle ragazze, come è giusto che sia, e la parola femminicidio. Non puoi guardare il culo di una ragazza, se no ti accusano di femminicidio. Questo ha detto il professor Becchi. Non è che l'abbiamo detto noi, poi l'ho ripetuto io. Ma lasciamo perdere, ne parleremo più avanti, cari ascoltatori. Perché? Perché? Perché? C'è stato un personaggio oggi, tra gli altri, per cui hanno chiesto 7 anni di galera. 7 anni. C'è un PM che si chiama San Germano, che ha parlato in questo modo: fede la assaggiava, mora la pascolava. Fede l'aveva conosciuta nel febbraio del settembre del 2009, ne aveva apprezzato come un saggiatore di vini pregiati la beltà fisica, estrinseca, estetica, l'aveva presentata a Mora, che la pascolava un po', la teneva in caldo, diciamo, facendogli fare qualche seratina, per poi immetterla nel circuito. Culi su, culi giù, culi qui, culi. Direttore? Eccoci. Il grande porco descritto oggi da San Germano? Sto parlando con lui? No, no, mi veniva da sorridere, potrei dire amaramente sorridere, no, ma proprio sorridere per la descrizione così molto così bucolica di zone. Ha parlato di orge bacchiche. Bacchiche, bacchiche. Sì, orge bacchiche. E ambiente lì, orgiastico. Raccoglieva le bacche. Ah, no, no, bacchiche in senso bacchica. Beh, certo, non con le bacche vere. Ha fatto una descrizione che devo dire, io ho provato a ritrovarmi in quella descrizione, sto ancora cercando disperatamente di capire, di ritrovarmi in quelle orge bacchiche, e purtroppo non ci sono, mi spiace per il pubblico ministero. Non hai mai fatto un'orgia? No, io non so cosa sia un'orgia. Vabbè, adesso lo sai che cos'è un'orgia, direttore. No, perlomeno io non l'ho mai fatta l'orgia, però loro hanno immaginato scene orgiastiche. Sì, orgiastiche, esatto. Che mi dà l'impressione che, non lo so, io ho creduto di vivere, l'ho sentito in diretta, non è che ero lì presente, meno male che non ero presente. Perché, se no? Perché se no forse sarei intervenuto. Sbroccavi, sbroccavi. C'è stato un momento in cui, parlando delle due ormai famose, Amber e l'altra di Torino, ha detto sì, perché poi la più giovane, e lui però ha detto, lui sarei io, ha detto mi dispiace, sai, non sei ancora matura per altro, non dicendo qual era l'altro, e qual era l'altro? Fare, no, era venuto a fare il casting per il meteo. Io ho detto non sei, a 18 anni non sei credibile. Vabbè, ti ha descritto, scusa, l'hanno trasformata così, aspetta, mentre la sua amica, che poveretta, fatto lei nella sua vita giovane torinese, aveva l'amante, fammelo dire, aveva l'amante che la manteneva, cioè si prostituiva, l'ha detto lei, ha raccontato attraverso la requisitore che c'è stato un momento di grande terrore perché ha visto per la prima volta una donna nuda. Beh, immagino che forse avrà visto più uomini che donne, non lo so, un'ipotesi, metaforicamente parlando. A quel punto ho cominciato a dire, qui mi sembra di essere in uno straordinario film felliniano. Scusami Emilio, se stavi lì che facevi al PM San Germano, prendevi intervenivi, era meglio non essere presente, eh. No, io no, non avrei fatto niente. Ho detto scusate, un altro film. Però scusa, nelle parole di San Germano non ci ritrovi, ecco, non ci ritrovi un PM un po' perverso, tra virgolette, o no? No, guarda, io ho dunque ti dico questo. Oppure semplicemente fa il suo mestiere. Una ufficialità. Parliamo di un'aula di tribunale con tutta la sua attività, la sua importanza, certamente se vogliamo credere alla giustizia. Questa è l'accusa. Sono due personaggi, hanno il loro passato, io non lo conosco, probabilmente loro sono stati sempre, non lo so, certamente per bene, bravissimi, eccetera. Io ho chiesto, chiederò, farò una dichiarazione spontanea, è stata anche annunciata, chiederò alla corte mezz'ora, durante la quale mezz'ora io sono convinto con presunzione di poter smontare almeno il 99% delle accuse che mi riguardano. Scusa, ma ti hanno descritto, scusami Emilio, questo l'hai già detto, ti hanno descritto come un vero e proprio pappone, cioè diciamola tutta. In che senso? Beh, ti hanno descritto come un pappone, cioè che portavi tutte le è vero, io mangiavo. Assaggiavi le donne e le portavi a Berlusconi, peggio di un pappone, no o no? Sì, è questo che non riesco, Orge Bacchi, che io le assaggiavo, le cose, ma tu pensa, cioè, sai cos'è, al di là delle battute, è una riflessione anche abbastanza drammatica, cioè tu pensi, scusa, sette io anni, ho no? Una famiglia, sì, ho una moglie, hai una famiglia, una moglie, dei figli davanti alla quale famiglia i signori PM non devono avere neanche il coraggio di alzare lo sguardo per le cose che hanno detto di me, va bene, quindi hanno mortificato me, e pazienza, e dico vabbè. Mi piace fare questa cosa, la facciano, perché vabbè, la faccio, però non possono dimenticare che c'è una famiglia, hanno una famiglia, cioè vuol dire, loro davanti a mia moglie e alle mie figlie si devono vergognare. Ecco, si devono vergognare per le cose che hanno detto davanti a tua moglie e a tua figlia. Certo, a me, sono imputato, deciderà la corte, per fortuna non decideranno loro, però devo dire, poi abbi pazienza, anche la sgarberia, quando ha raccontato, parlavano di Ruby, perché lei era una che parlava con la sua amica e magari si vantava e ha detto io ho fatto l'amore col Presidente della Repubblica, e l'altra di rimando ha detto io col Papa, ma roba da pazzi. Ma siamo arrivati a questo tipo di sgarberia, di assoluta, io non lo so. Ma come lo definisci San Germano e Forno? Come li definisci? Due pubblici ministeri. Basta. No, ma io ho tanti amici pubblici ministeri. Dai. E loro che cosa sono? Fissati? Sono... Ma non lo so, ma guarda, devo dire la verità, li vedevo, io ogni tanto andavo a curiosare da cronista in una procura dove io sono stato giornalista, non dimenticando che io ho fatto Tangentopoli in cronaca. Però hanno chiesto sette anni. Hai paura di finire in carcere o no? Carcere, non so, io la mia preoccupazione non è che mi mettono mica con Michele Misteri, devo dire, perché sette anni, diciamo, mettiamoli insieme, però al di là che c'entra Michele Misteri adesso? Ha avuto sette anni lui. Vabbè, in realtà no, non ha avuto sette anni Misteri. No, non ha avuto sette anni Michele Misteri. Meno. Ma no, ma non è stato mica condannato Michele Misteri. Vabbè, lasciamo perdere Michele Misteri. Sette anni di carcere, hai paura di finire in galera, sì o no? Non ci posso finire. Perché? Perché alla mia età dove mi mettono? Cioè, comunque sono troppo anziano per finire in galera. No, la cosa che mi rammarica è che io sarò interdetto dai pubblici uffici e anche dall'insegnamento nelle scuole. Detto questo, e soprattutto tutti gli uffici che hanno a che fare con i minori, non puoi essere a contatto con i minori, hanno chiesto, qualsiasi incarico nelle scuole o in servizi pubblici o privati che hanno a che fare con minori. Con minori, quindi io il fatto che devo dirigere una scuola a Pechino, pazienza, vuol dire che non ci andrò a Pechino. Comunque al di là. Però scusa, ti hanno trattato come uno che non si può avvicinare ai minori, ma uno dovrebbe essere incazzato come una bestia, o no? Guarda, io non sono incazzato come una bestia, tutt'altro. Mi sarei preoccupato se questa requisitoria si basava su delle cose serie. Non si è basata su delle cose serie. Vabbè, questo... No, ma te lo dico io perché è così. Se ti dico che io vado in tribunale e sono e smonti tutto, ad una corda... Ma hanno detto... detto delle cose. Traffico, torniamo subito. Parenzo, adesso vengo con te. Dove sei? No, ma voglio capire... Vabbè, no, lo chiedo dopo al direttore. Dai, lascio tranquillo. No, dimmi, domanda al direttore. Che c'è? No, volevo capire dal direttore, ma insomma, non era più semplice a un certo punto andare lì da San Germano e dire: caro San Germano, vabbè, e c'è stato qualche balletto, c'è stato qualche reggiseno che volava via, ma dov'è il problema? Volete vabbè, forse... adesso lo dirà, no, andrà. No, dico, volete forse mettere e processare un paio di mutande? Se dicevi questo, forse probabilmente andava diversamente, no? Bah, ma che stai dicendo? Traffico. Siamo qui 800 24 00 24, la Zanzara con Emilio Fede, per cui hanno chiesto da pochi minuti 7 anni, caro Emilio, 7 sì. anni, non ci posso pensare, sì. cioè peggio dei trafficanti di minori. Sì, assolutamente, pensate che lì nei minori non c'è, stiamo attorno ad una, al discorso di una quasi maggiorenne, parliamo di Rubi, che poi è stato stabilito che non l'ho portata io, non l'ho invitata io, non c'è niente, però attorno a questo adesso io sono nelle ipotesi di la richiesta di condanna che non mi possa avvicinare a minori, ma sai che siamo veramente alla, io dico alla follia metaforicamente parlando, alla follia. No, in servizi perché... pubblici o privati che hanno a che fare con minori, cioè tu se vuoi andare in una scuola, che ne so, a prendere tua nipote, no, che ne so. Ma capisci che siamo veramente, io non lo so, guarda, io mi chiedo. Ma sei stato, diciamo, un po' abbandonato innanzitutto, per esempio Berlusconi non ti ha abbandonato in questo frangente? In questo frangente ancora non l'ho sentito che si faccia vivo. Certamente, come mi abbandona un par di palle, si faccia vivo. Non ti può abbandonare, vivo. No? Come? Non ti può abbandonare, dici? Ma per bene di no, ma no, sono certissimo di no. Io non credo che uno, per aver frequentato la casa del Presidente del Consiglio, debba essere poi abbandonato. Ma perché non si fa sentire? Ah, non lo so, mi chiamerai, i telefoni sono stati sempre occupati, credo che sia rimasto esterefatto, allibito. Anche perché se condannano te, condanneranno anche Berlusconi, questo è il punto, se dovessero condannare te. No, ma non so se poi è questo il problema, è che siamo di fronte ad una storia assurda, ecco, credo, sai, sono cose che non anche fanno la, anche bene la all'immagine della giustizia. Anche la Minetti si prostituiva, secondo i giudici. Guarda, sono affari suoi, l'hanno detto, c'erano intercettazioni, certo, come non si è prostituita. Io ho sentito, sono tutti innocenti, allora l'unico colpevole sono io, di che poi sai, saggiare, ma saggiare. Vuol dire che io saggiare. Ho avuto rapporti sessuali, i toccamenti, ragazzi, volete rispettare? Saggiavano la gradevolezza delle ragazze, facevano l'esamino per vedere se avevano anche una capacità socio-relazionale e poi le immettevano nel circuito delle serate d'Arcole, un circuito a cui non è sfuggita nemmeno Rubi. Cioè saggiavi la gradevolezza, un pappone, dai, su, diciamo la verità. Parenzo, un pappone o no? Sì, ma guarda, io... guardate, sai cosa mi dispiace? Che di fronte all'opinione pubblica la giustizia, anche se è un caso isolato, parliamo di pubblici ministeri, non ci fa bella figura. Perché voglio dire, no, io credo che nessuno può pensare, incontrandomi, che io sia una persona che va appresso alle minorenni per tentare di saggiarlo o altro genere. Io non lo so, credo che forse, sai, dico senza offesa, che questo clima... Ma non ti ha fatto un po' piangere questa requisitoria? Cioè, essere trattato così non ti mette un po'... cioè quasi... che effetto ti fa essere trattato in questo modo, come uno che saggiava le ragazze per portare da Berlusconi? Da questi due signori? Mi lascia completamente indifferente. Perché? Ma perché sì, perché se a te ti dicessero in questo momento che stai guidando un giabbo così che poi non so, sei andato sulla luna, tu che fai? Ridi, non è vero, io che cosa posso fare? Non sorrido unicamente per i riflessi che ti dico sulla famiglia, dalla mia famiglia. Loro hanno commesso loro un reato di vilipendio della dignità di una famiglia. L'hanno fatto anche nei confronti del Papa, gli è sfuggita, va bene. Perché nei confronti del Papa? Perché nei confronti del Papa? Ma aver usato come la battuta, se lui che lei diceva di far l'amore col Presidente della Repubblica, l'altra gli poteva rispondere io col Papa. Cioè, ma non ha questo, come si chiama lui, non mi ricordo neanche, sì, San Germano, uno l'altro forno. Cioè, sì, lo sai come si chiama, non lo sai. Hanno mortificato, e loro hanno commesso un reato. Con questo tipo di accusa hanno commesso un reato, perché hanno mortificato una famiglia davanti alla quale loro non sono neanche degni di passare. Va bene? Scusami, questo è il problema. Emilio, loro di questo si devono vergognare. Forno è specializzato. A questo punto non me ne frega niente che mi diano 14 anni, va bene? Sì. Perché siccome a me mi girano i coglioni, va bene? Sì. Io andrò in tribunale, mi farò no, rispetto del tribunale sempre, ma smonterò l'accusa, poi loro facciano quel che vogliono. E di fronte ma a Forno che fai? Devono vergognare. Di fronte a Forno che fai? Sai che è specializzato in reati contro minori, no? Forno. Ah, è già. Eh beh, ma io non sono più minorenne. No, beh, no, contro i minori, ah, contro i minori. Vabbè, no, comunque. Parenzo, che vuoi dire al direttore? No, ma non riesco a capire. Abbraccialo fortissimo, perché... intanto abbraccialo fortissimo, perché ha ricevuto un'accusa un'accusa di 7 anni, adesso io voglio dire tutto. I processi sono i processi. I processi sono i processi, però io 7 anni per che cosa? Ma io lo abbraccio fortissimo. Abbiamo fatto perché... il processo al perizoma, questa è la verità. Abbiamo fatto il processo o no? No, spero che non sia questo, ma loro hanno fatto il processo al perizoma, va bene, alle tette se si vedevano o non si vedevano, il perizoma sarà grigio o sarà no, e se lo si tocca, ma insomma voglio dire, questo è, a noi abbiamo offerto al paese, all'opinione pubblica, sì, uno spaccato che è meglio dimenticare. Parenzo? No, non capisco questo, abbraccio fortissimo Emilio. Grazie. Non posso credere a quelle accuse, ma dico, ma questo San Germano, ma cosa, ma l'impianto accusatorio non esiste proprio nulla, cioè si è inventato tutto, è questo che io non capisco, perché i 7 anni sono la conseguenza, diciamo, dell'impianto accusatorio, cioè delle prove che avrebbe trovato, bisogna dire sempre così, il PM. Ma scusa, ma ti posso dire, innanzitutto... la, come si chiama, Rubi, è provato, l'ha detto lei. Vabbè, se no rifacciamo il processo, ma Emilio. Ma no, non possiamo fare, ma, che ma non lo facciamo. Tutto. Io no, non l'ho avuto, ma poi guarda, guardate. Ma tu hai nipoti, Emilio, hai come? Nipoti, hai nipoti? Ho una nipote di 15 anni e una di 22. Ah, vabbè, capite? Sono grandi, non capite? Sono minori. Questo il signor San Germano, San Giacomo, San Germano si chiama lui, e il signor Forno eccetera, sì. Loro devono riflettere prima di mettere nero su bianco e di dire ai microfoni davanti alla gente delle bip, no, bene? Delle che? Ecco. Non si fa, ma non si fa, ma non si fa, dai, su che cosa? E che ne so, su... come dormono, e qualcosa avranno, però. Come dormono? Come dormono stasera, avranno, si guardano allo specchio, avranno una coscienza. Io rifiuto queste parole, non è la condanna, ci mancherebbe altro, e non ci credo, ma dovesse essere anche la condanna, pazienza, alla mia età, che volete che vi tanto dica. In galera non ci vai, dici, no? Non è tanto il problema della galera, tanto è galera il fatto, io spero, questo sì, che i colleghi giornalisti, almeno sì, una parte di essi, sì, va bene, possano esprimere una minima riserva sui contenuti di una richiesta di accusa che fa ridere. Vabbè, adesso poi vedremo ovviamente quello che succederà. Comunque assaggiare, qualcuno dice assaggia figa addirittura. Roba, nelle cose ho letto su Twitter oggi tremende, sì, assaggia sì, figa, Fede è diventato l'assaggia figa, Emilio. Beh, tu ridi, e a me se mi dicessero no, che assaggiavo le fighe per portarle, sola, che, per portarle che ne so, qui al Sole 24 Ore in alto. No, ma scusa, ma non c'è una sola intercettazione. Che beh, ma ne hai portata una, però ammettilo, sì, una volta è successo, ho portato una a Berlusconi, dillo, una volta, una. Non ho mai invitato nessuno, lo dice lui, io vorrei andare in tribunale. Ma non è un delitto, ho portato una a Berlusconi, secondo me non è un delitto. No, io non ho commesso questo delitto. Ti abbraccio, giornale ciao, radio. Ciao ragazzi. Siete delle merde! Porca la puttana, andate a fanculo! Fa, caro David, Omar Pedrini è con noi, buonasera, è passato un anno, ma eccoci che qui, meraviglia. Che meraviglia, tu sei rinchiuso lì a Siena, dove sei? Rinchiuso a Siena? No, sono in questo momento, non voglio fare pubblicità a nessun ristoratore, ho portato mia figlia, sì, che deve fare un saggio di danza. E chi se ne frega, uno potrebbe dire. Buonasera, sì, signora, ah, sì, però qui ho una grande intervista, signora buonasera, lei è una delle cuoche, no? Sì. Benissimo, lei è una sostenitrice del governo attuale di Letta, vero? Sì, molto bene, perché è uno dei migliori governi che esiste, vero? Sì. Ecco, queste sono delle interviste fatte a ruolo che però dimostrano il sostegno. Ma no, ma è tutto istigato da te, gliel'hai detto prima. No. Cioè, io ho domande indotte. Ma no? Che domande? Cioè, quelle domande che hanno già dentro la risposta. Comunque chiedo, ma cambiamo tutto, cambiamo format. Sì. Ma oggi è Radio Dedica, cioè facciamo la canzone Verso Oriente. Da tutti quelli che si amano, abbandoniamo polemiche, abbandoniamo politica, abbandoniamo risse, abbandoniamo cazzi, culo, tutte parolacce, e facciamo invece una trasmissione che è dedicata all'amore. Cioè, sì, all'amore, alle cose sicuramente. Belle, alle notizie sicuramente, belle, sicuramente. Intanto, agli operai che trovano lavoro, sì. A chi, agli assistenti sociali, alle politiche, ai intanto rom, mandiamo, i titoli, mandiamo i titoli del TG3, poi vediamo, senti con quale canzone rientra Omar. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Disegno di legge per l'abrogazione del finanziamento ai partiti, stop graduale, versamenti volontari, incentivi fiscali. Letta ora subito la legge, per Grillo è una truffa, protesteremo, ma Sposetti ex tesoriere di S, senza soldi la politica non vive. Più sgravi fiscali per il risparmio energetico, sconti fino al 65%, bonus per i mobili legati alla ristrutturazione. Allarme del governatore di Banca Italia Visco, il paese è fermo a 25 anni fa, subito le riforme, giù le tasse sul lavoro. Drammatici dati Istat sulla disoccupazione, quasi al 13% tra i giovani e al 40%, Napolitano attenti al disagio. Al processo Ruby Bis chiesti 7 anni di carcere per More, Fede e Nicole Minetti, il PM sapevano che Ruby era minorenne. Grande folla al funerale di Franca Rame sulle note di Bella Ciao, moltissime donne vestite di rosso ed il commosso ricordo di Dario Fo. Dammi la tua mano gelida e alzati, barcollando in tacco 12. Andremo via, via da questo ballo in maschera che non ti merita. Italia, tua mano gelida e alzati, barcollando in tacco 12, e andremo via, via da questo ballo in maschera. Il culo non mi dispiace, perché quando guardo da dietro una ragazza io guardo sempre il culo, però mi hanno detto che quello, anche questo non quello, si può dire, quello mi sembra una cosa ottima, quello mi sembra una cosa ottima. Professore, ma perché un professore non può guardare le ragazze, non può guardare il culo delle ragazze? Professore, quella barba, tutto anziano, non so cosa sia, bravo, sei... perché adesso se guardi il culo di una ragazza capace pure che ti accusano di femminicidio, ma professore, sì, però sai, perché magari ti sei fatto chissà quale idea, no, magari invece ti piace proprio il culo, perché esatto, cioè, lei guarda sempre il sedere delle signorine. E certo, ma scusa, non è che se lei s'azzarda, però professore, ti capita, guardi, voglio dire, giusto, ti capita. Ma la sua età, ma perché, qual è il problema, non ho capito, ma, ma perché tu vuoi la soppressione? Gli occhi miei si aprirono alla rivelazione, nella stagione dell'ormone mi trovavo al centro di un'invasione, culi in ogni direzione. Allora, la polemica è questa: il professor Becchi è andato da Barbara D'Urso, già la notizia è clamorosa. Il professor Becchi, quello con la barba che abbiamo scoperto noi, hanno scoperto altri, sì, l'ideologo del Movimento 5 Stelle, va da Barbara D'Urso. L'ultima volta che un grillino andò da Barbara D'Urso, il senatore Mastrangeli fu cacciato a pedate, sì, nel sedere dal Movimento di Grillo, con la scusa, sì, che era andato a un talk show, che non aveva ubbidito ai comunicatori, eccetera. Becchi va da Barbara D'Urso. Io sono contentissimo che sia andato da Barbara D'Urso, però non è, sì, che ci possono venire a prendere per il culo, cioè a noi, dicendoci che la parola femminicidio in bocca al professor Becchi l'abbiamo messa noi, perché per ben due volte il professor Becchi dice: io guardo il culo alle ragazze, non è che mi possono accusare di femminicidio, è una battuta, state tranquilli. Non capisco perché intorno a questa cosa del femminicidio c'è una sensibilità eccessiva. Qual è il problema del professor Becchi? Cosa ha detto di così scandaloso? Perché l'ha detto lui, l'ha pronunciata lui la parola femminicidio, ha detto che guarda il culo delle donne. Guarda il culo delle donne. Qual è il problema? Qual è il problema se il professor Becchi guarda il culo delle donne e fa come battuta? Beh, io guardo il culo delle donne, non è che mi possono accusare di femminicidio. È una battuta. Parenzo, anche tu sei così sensibile a questa cosa? No, io voglio dire che è un... cioè, no, adesso voglio dire, non è che uno va in radio e dice io guardo il culo delle donne alle parti vecchie, cioè, classi per un vecchio porco. Ma comunque, se il vecchio porco, se, no, non lui, ma in generale, se a una persona che tra l'altro ha anche un ruolo, insegna all'università, è un docente, cioè, voglio dire... Ma qual è il problema? Qual è il problema? Dire, non sai nemmeno che dire. Senti la D'Urso, Cruciani e Parenzo non lo faranno più. Sul femminicidio, non è argomento... d'ironia sul quale si può fare ironia. Bravo. Sono cose Bravo. Cui l'ironia non è ammessa. Sono sicura che Cruciani e Parenzo non lo faranno più. Gli è uscita così, volevano fare una battuta, invece gli è uscita male, ma non avevano intenzione di farla. Becchi, devo salutarti. No. Sì. Ma non l'abbiamo fatto noi, Barbara. Non siamo stati noi. Alla signora D'Urso voglio dire, strano, perché voi media siete una straordinaria azienda. Ma voglio dire, qui c'è un errore clamoroso, cara Barbarella mia. Cioè, devi riascoltare l'audio, perché... non lo faranno più cosa? Cos'è che non faremo più, cara Barbarella? Parlare di femminicidio così facendo una battuta, ma non siamo stati noi. Ma noi non abbiamo fatto nessuna battuta, l'ha fatta. Ma poi comunque io anche se l'avessi fatta bianca. Non mi vergognerei per niente, anche se l'avessi fatta, devo dire la verità, non mi vergognerei. No, cioè. Ma comunque io sì, perché io non sono. Vabbè, ma perché tu sei il solito conformista. No, ma io non, se sono docente, io comunque non vado in radio a dire che guardo il culo alle persone, primo. Se lo faccio me lo tengo per me. Allora, Pedrini, quindi, tu guardi il culo alle donne? Pedrini, guardi il culo alle donne, sì o no? Ebbene, sì. Sì, guardi il culo alle donne. Su, dai, guarda il culo delle donne, uno lo dice, perché qual è il problema? Non capisco qual è. Anche le donne guardano il culo degli uomini, no? Sì, che vino è questo? Eh? Che vino è questo? Stai gustando una Barbera del Piemonte di Rocchetta Taro. Aspetta, guarda, senti Santoro, solo Berlusconi aveva intuito la verità di Grillo. Santoro, pensate che fino ad oggi una soluzione così definitiva a tutti i nostri problemi, forse soltanto il capo dei cattivi, cioè Berlusconi, l'aveva un po' intuita, forse l'aveva pure praticata inconsapevolmente, ma solo Beppe Grillo, vi assicuro, ha avuto il coraggio intellettuale di teorizzarla. Sentiamo. L'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare! Hai capito? Giuliano, provincia di Pavia, buonasera, Giuliano. Oh, buonasera. Dica. Finalmente ho l'onore di parlare con la mitica coppia. Vabbè. Io volevo dire il mio pensiero sulle coppie di fatto. Sì, e allora? Mi va bene, perché se ci penso non ci dormo neanche la sera. Sì. Lei che è il conduttore di una buonissima trasmissione, anche una funzione pubblica. Sì, allora? Bisogna ribadire agli italiani che ok, c'è due... uomini, due donne si vogliono bene, sì. Nessun problema, li si uniscono, gli si danno tutti i diritti di una dunque? Famiglia, ma non potranno mai adottare un figlio. Mm. L'uomo, per qualunque sua natura sia, non può dare conto alla secondo lei, natura. Se lei fosse cresciuto in una famiglia di omosessuali, sarebbe cresciuto male? Questo non lo so. E allora? Ma io non posso andare contro la natura in cui io vivo. Noi ci sono tante uomini, cose. Che cos'è la natura? Che cos'è la natura? Che cosa è contro natura e che cosa è nella natura? Contro natura, ma contro le leggi della stessa terra. Le leggi della stessa terra, sì. Lei deve arrendersi perché è circondato da frosci. Borsa. Fame lei, le tue mutandine che mi fanno morire quasi tutte le mattine, le croce rossine che mi fanno guarire, pane, burro e medicine. È come uno shock, è stato uno shock, dolcissimo shock, è come uno shock. Fiede l'aveva conosciuta nel febbraio del settembre del 2009, ne aveva apprezzato come un saggiatore di vini pregiati la beltà fisica, estrinseca, estetica, l'aveva presentata a Mora, che la, la pascolava un po', la teneva in caldo, diciamo, facendogli fare qualche seratina, per poi immetterla nel circuito. Zanzara! Sempre con noi Omar, eh? Omar Pedrini, avete sentito il PM San Germano oggi dire: Fede la assaggiava, Mora la pascolava, la assaggiavano come il vino, assaggiavano le ragazze come il vino. Sgarbi, quando hai sentito queste parole di San Germano e Forno, a cosa hai pensato, Vittorio? Ecco un altro, perché le femministe dovrebbero reagire, sì? O che Berlusconi o Mora o chi sia dovrebbero prendere la Bernardini de Pace, sì, per difendere l'identità delle ragazze. Cioè, pascolare è tipico delle pecore e delle capre. Sì. Chiamare un essere umano con la denominazione di un animale è un'umiliazione che un magistrato non si può consentire. Questo lo capisce bene anche quella capra di Trento, che ho visto incredibilmente su una posizione come la mia prima. Questi due processi, Rubi e questo, sono contro la donna, perché la donna può dare la figa a chi vuole, come vuole, quando vuole. Vabbè, ci sono dei reati. A pagamento. No, scusami Vittorio. È una logica elementare. No, magari scusami Vittorio. Anche l'uomo. Allora, Vladimir Brusturi ha cominciato la sua carriera. Fai che stare Vittorio, però, perché io l'ho vista e l'altro ieri ha preso la comunione Casina al Bagnasco. Allora, fine. Questi magistrati leggiano. Sembra di essere negli anni 50 con i pretori e censuravano i film. Quell'altro deficiente che scusami distrugge l'ultimo tango a Parigi, che è stato riabilitato, dovete chiamarlo, da un magistrato intelligente che è Antonio Marini, che ha richiamato la pratica per salvare. Ma non è così. Come non è così? Oggi non avresti quel film. Non è così. Della pruderia sessuale di magistrati privi di conoscenza e di non è così. E delle persone, come no? Stai come al solito rendendo le acque torbide. No, qui non si sta per tu, che sei un coglione e un cadavere che dice solo delle cose senza senso. Oggi ne hai detto una sensata, direttorissimo, sono dalla sua parte, adesso non la dici più. Che cazzo dici? No, stai come al solito intorbidendo le acque. Cosa sostieni, Parenzo? Non capisco nulla. La una può darla gratis e a pagamento il lunedì, gratis e il lunedì a pagamento, e non è reato. Sono cazzi suoi. Sì, lui il magistrato di suoi. D'accordo, no, San no, Germano dice pascolare, sei tu che pascoli. Devo dire pascolare, impari il rispetto delle persone. Avvicinati di un avvocato che non sia quello che sarà di Fede, come la Bernardini de Pace. Caro, misuri le sue parole, non offenda una donna. No, ha avuto, che lo ha detto, del mio corpo, so quello che voglio, lo do gratis a Sgarbi e lo do a 2 milioni di euro a Parenzo, cazzi miei! Però scusami Vittorio, il PM dice, il PM di aspetta, il PM dice pascolava, ma come si permette? Ma come si permette? Ma l'ha mai letto Pasolini? E quella merda di Parenzo, ha mai letto Vittorio? Andate a leggerlo! Scusami, la letteratura di queste cose le ha dette dai tempi del nazismo. Ha scritto queste cose. Dice San Germano: l'interposizione di un terzo che istighi e sfrutti l'altrui sessualità non è lecita. Così dice. Non c'è niente da istigare, l'ho letta questa cosa. Non c'è niente da istigare, perché se io porto una ragazza da te a casa tua, sì, e tu la corteggi e la scopi, non è che l'ha chiesto a me. Allora Berlusconi, come Fellini, come Ponti, come i direttori presidenti della RAI, sì, come Zaccaria, una donna per avere una qualunque possibilità, sì, una donna con questa ambizione di fare televisione, non chiede a Fede, decide no, lei. D'accordo, d'accordo. Allora, secondo te, perché San Germano e Forno si sono fissati con questa cosa? Loro dicono che hanno sentito che ci potevano essere dei reati e hanno iniziato delle indagini. Invece, secondo te, che cosa sono questi magistrati? Vabbè, è caduta la linea, come al solito. Raffaele da Brindisi, buonasera, Raffaele. Sì, buonasera, sono Cruciani. Dica. Io l'altra sera le volevo parlo questa sera per ieri. Lei si è, diciamo, come un po' fissato a... Sì. Perseguitare i grillini. Ma che cosa? Perseguitare i grillini cosa? Scusi, quali perseguitare i grillini? Di che cosa? Perché, osservo le cose che accadono. Oggi, per esempio, dico, guardi, togliamo subito questo argomento di torno, perché oggi le cose che scrive Grillo sul finanziamento pubblico ai partiti sono sacrosante. Lo vede che non è che attacco per forza i grillini? Oggi Grillo scrive sulla questione del finanziamento pubblico, su questa truffa che ci stanno facendo, perché si sta preparando una grandissima truffa, vedrete. Scrive delle cose sacrosante. Scrive delle cose sacrosante. Lei deve mettere in evidenza molto di più dei grillini. Ma io metto in evidenza quello che mi pare e quello che mi sento. Non me lo deve dire lei quello che devo mettere in evidenza. Abbia pazienza. Ma non me lo deve dire lei quello che devo. Me che le ascolto ogni sera e lei in continuazione parla sempre dei grillini, ma non degli altri. Non è una cosa bella, perché guardi, anche io gli parlo... altri fanno delle grandi fesserie. Guardi, no, io non, qui così... non abbiamo il bilancino, io parlo di quello che mi sento e di quello che mi pare, innanzitutto, primo. Io parlo di quello che mi sento durante la giornata, è così. E io anche le sto dicendo di quello che mi pare su quello. Lei che mi dice fa. Attacco troppi grillini. Le do la prova contraria. Grillo oggi ha scritto una cosa sacrosanta sul finanziamento pubblico dei partiti, che è tutta una buffonata, una legge truffa. Si prepara una grandissima legge truffa. Le voglio chiedere un'altra cosa. Lei si mette dietro lo scudo dicendo io li ho aiutati i grillini, sì. E quantomeno li aiuti. Ma guardi che a me non me ne frega niente, ma io non devo aiutare chi voto. Il voto non è un'appartenenza, non è una fede. Voto in quel momento e subito dopo non me ne frega niente. Alla fine della legislatura che cosa combineranno? Perché e infatti questo quanti, vado, infatti questo voglio fare. E infatti questo giornali, voglio fare per dire le trasmissioni. Tutti quanti a inculcare ai grillini che cosa dovevano Raffaele, fare. Raffaele, il mio approccio è esattamente quello che lei mi chiede. Cioè io deciderò se hanno fatto bene o hanno fatto male alla fine della legislatura, quando si tornerà a votare. Adesso qualche cosa mi va bene, qualche cosa non mi va bene, come è normale che sia. Non è che giudico dopo 3 mesi. E in ogni caso io non è che ho in fronte scritto 5 stelle, tutt'altro, come sa lei. Per cui il voto non è che tu sei classificato lì e dopo è chiusa la questione. Cioè il voto è così, cioè si decide in quel momento e poi basta. C'erano un grillo e una zanzara che verso sera facevano a gara. Il grillo aveva una voce migliore, ma la zanzara ha il pungiglione. Omar Pedrini è con noi, ma c'è anche Matteo Salvini, Lega Nord, europarlamentare. Buonasera. Buonasera a voi e un abbraccio al fratello bresciano Omar. Ciao Matteo, ciao Matteo. Fratello bresciano. Fratello. Ma tu non sei bresciano, Salvi. Per me sono tutti fratelli. E viva le rondinelle. Anche canadesi e finlandesi, i bresciani un po' di più. Senti, ma c'era anche Bossi oggi alla riunione che avete fatto? Certo. C'era Bossi e c'era anche Maroni. Beh, ovvio. Ovvio. Che cosa ha detto Bossi a Maroni? Hai distrutto la Lega, non sei riconosciuto come capo, occupi troppe poltrone. Gliel'ha detto in faccia queste cose? Assolutamente no. E perché non gliel'ha detto in faccia? Ah, non so, chiedetelo a lui. Io mi sono limitato a dire che in questi momenti distribuire colpe non serve a niente a nessuno. Occorre lavorare più che litigare, perché la gente quando litighi ti manda a quel paese e ha ragione a mandarti a quel paese. Dunque, ha sbagliato chi? Bossi a litigare? Cioè Bossi a prendersela con Maroni? Assolutamente sì. La gente in questo momento ha bisogno di risposte sul lavoro, non di litigi sulla leadership in questo o quel partito. Quindi ha sbagliato Bossi, come possono sbagliare, sbaglia Grillo se insulta Rodotà, sbaglia Renzi se insulta Bersani, eccetera eccetera. Senti Parenzo, come è diventato ecumenico Salvini, io insulto Parenzo volentieri. Ah, Parenzo sì, Salvini è un traditore del nord, Salvini. Ma no, ma scusa, Salvini. Bossi l'ha appena candidato segretario in un'intervista oggi al Fatto, che Parenzo non ha letto ovviamente. Ha tradito il nord, che in passato si è schierato con Maroni. Tradito il nord. Ma scusa, ma Maroni è presidente della Lombardia, Bossi. È presidente della Lombardia perché me ne sbaglio, perché Maroni, io la Lega è una roba la Lega. Lui ha tradito il nord. Noi siamo per il federalismo fiscale. Non ho mai parlato io del federalismo fiscale. Ma non ce ne frega niente adesso. Adesso vai a far culo e parlo lì alla radio, a questa radio 24. Che non si preferisco perché. Preferisco Crozza. No, è meglio Parenzo. È meglio Parenzo. Ma Renzo dov'è finito? Renzo dov'è finito? Mi sembra che sia andato in America e gli fa bene un po' di America, penso. Ah, gli fa bene stare un po' lontano, signor Renzo Bossi, eh? Beh, ma penso che si debba creare una vita, un futuro, una famiglia, un lavoro, e quindi gli Stati Uniti sono una terra ampia, accogliente, dove ognuno ha la sua opportunità. È meglio restare un po' lontani, eh? Meglio restare un po' lontani. No, fa bene alla Lega se Renzo resta un po'. Se i figli di Bossi stanno un po' lontani dalla Lega, è meglio, no? Ma no, la... Vai Matteo, su lo sai. La Lega deve trovare il modo di abbassare l'addizionale regionale. Vabbè, d'accordo, quello. Bossi. Ma adesso poi io ho le mie simpatie e antipatie, secondo me è stato sbagliato candidare il figlio di Bossi in regione, però quell'altro che per 15 giorni è stato su tutti i giornali come un demonio perché aveva comprato uno yacht da 2 milioni e mezzo di euro col denaro pubblico, adesso molti ascoltatori saranno ancora convinti che... No, no, l'abbiamo spiegato mille volte che non era così. Però per 15 giorni quello, ripeto, può starmi simpatico o antipatico, però una persona così si rovina. Io voglio capire una cosa, la realtà di questa diatriba che ancora continua e che c'è, che serpeggia all'interno della Lega tra Bossi, Bossiani che sono una minoranza. Guarda, quanti sono i Bossiani? I Bossiani quanti sono secondo te? Ma no, no, non ci sono. Non esistono? Non esistono. C'è l'1%, l'1%, quanti sono? C'è Umberto Bossi che ha creato la Lega. Io sono qui in radio da voi perché Umberto Bossi ha cominciato tanti anni fa a parlare di Nord. E quindi è umanamente, politicamente comprensibile il fatto che dopo 25 anni che uno alleva la sua creatura abbia un po' di risentimento nei confronti di chi porta avanti la missione. Quindi è più che comprensibile. Cioè è geloso, tu dici? Beh, ma anch'io lo sarei probabilmente, quindi non geloso, insomma, vorrei sempre esserci in ballo, però insomma, in politica come nella vita si va avanti, quindi Bossi ha ancora il suo ruolo, però attaccare colui che i militanti hanno scelto come segretario della Lega non serve a nessuno. Però scusami Matteo, adesso non si può sorvolare su una cosa, ha detto delle cose pesantissime. Maroni non è riconosciuto come capo, abbiamo perso i nostri elettori che mi chiedono di tornare, anche se poi non è chiaro se si candiderà a segretario della Lega. Ha trasformato i nostri ideali in burocrazia, non puoi collegare un progetto politico solo alle poltrone, non è riconosciuto come leader, insomma, voglio dire, non è che ne ha dette di tutti i colori. Sbagliando. Aspetta. Dimmi la verità. Dici la verità, Matteo, dici la verità. Bossi alla fine si candiderà a segretario della Lega o no? Ma non penso, perché sa bene che il suo ruolo è un ruolo utile come padre nobile, poi la vita va avanti, quindi ognuno faccia il suo. Quanto ma conta oggi? Quanto conta? Per fare il presidente di Regione Lombardia, quindi l'obiettivo è riuscire a rendere più vivibile la nostra regione. Quanto vuoi fare il segretario da 1 a 100 della Lega? Chi? Tu. Vabbè, ti ha candidato Bossi, sei uno dei favoriti, quanto lo vuoi fare? 100? Guarda, io come sempre in 23 anni di militanza sono a disposizione, è una cosa che mi spaventa il solo pensiero, però mai avrei pensato anche di fare il parlamentare piuttosto che il segretario regionale quando ho fatto la prima tessera del movimento, quindi se la Lega avesse bisogno io sicuramente non dico di no, non ho mai detto di no e mai dirò di no. Parenzo, ci sei? Credo che ci sono. Io oggi ho osservato una cosa, c'è stato un pentito che ha detto delle cose su Balotelli, no? E Scampia. Che spacciava per finta a Scampia. Ho fatto una piccola osservazione: se un pentito dice una cosa su un politico, tutti si genuflettono e stanno lì ad osservare, sarà vero, non sarà vero, attaccano sicuramente prima il politico, poi ci si occupa magari della credibilità del pentito. Oggi c'è stato un coro a favore di Balotelli e hanno trattato questo pentito, che sarà sicuramente un criminale, anzi è un criminale sicuramente, come un mezzo matto, tutti con Balotelli. Una differenza pazzesca, cioè un pentito dice una cosa su un politico ed è immediatamente credibile. Ha detto una cosa su Balotelli, alcuni mi dicono può essere anche verosimile, cioè che per finta spacciava a Scampia, quando andò a Scampia, e c'è un coro tutto a favore di Balotelli. Salvini, hai notato anche tu questa cosa? Ma sì, da milanista a me Balotelli piace quando gioca a pallone, ma fuori dal campo... Fratello bresciano anche Balotelli, non dimentichiamo. Sì, bresciano, come no. Bresciano, brescianissimo. Scusa, ti piace fuori dal campo invece? Fuori dal campo lasciamo perdere, non mi sembra che sia esattamente un esempio per i ragazzi della sua età. Non è un esempio, ma è credibile questa storia? Che ne so io adesso, non conoscendo Balotelli, conoscendo anche la follia di Balotelli. Ma non conosco Balotelli, la cosa la notizia campana di questa settimana che mi ha lasciato esterrefatto è stato il sequestro di un intero quartiere abusivo vicino a Caserta, 1400 appartamenti sequestrati dai carabinieri. Quello, quello. Su Balotelli non so cosa dire. Ti stupisci? Non ho capito. Insomma, questo è più preoccupante che non Balotelli. Senti, ma Borghezio lo lasciate nella Lega oppure lo cacciate dopo le ultime cose che ha detto? Borghezio certe cose potrebbe risparmiarsele. Mi sembra che gli inglesi che sono con noi nel gruppo all'Europarlamento si siano rotti le balle, quindi non so che cosa intenderanno fare. Ma voi qualcosa? Io l'ho difeso fino alla morte. No, secondo me ha detto alcune cose fuori luogo, poi non so che cosa, non l'ho letta. Ma c'è la possibilità dell'espulsione dalla Lega, sì non o no? Non penso, però non serve, si può fare una battaglia sull'immigrazione, sulla difesa dei valori, anche senza parlare di meticciato, di Ku Klux Klan, di robe simili, insomma. Ma Ku Klux Klan io l'ho chiesto io, poi lui ha risposto, però. Ma io non capisco perché alcuni vengano alla zanzara, perché voi siete. Ma non è la zanzara, è una. Devono fare bene il loro mestiere. Che cosa, cosa siamo noi? No, no, dillo. Siete due amichevoli stronzi che fanno bene il loro mestiere, quindi avete rovinato più carriere voi. Ecco, l'unico a cui non l'avete rovinata voi, ma se l'ha rovinata da solo, è Battiato. È venuto il Parlamento europeo a dire che i parlamentari sono mignotte. Però la zanzara ha fatto parecchie vittime, mi sembra. Senti, ma io non ho capito. Borghezio resta nella Lega? Sì. Ah, beh, questa da qua. Dal mio punto di vista, sì. Beh, dal tuo, non è che tu pesi adesso. Prima pesavi di meno, adesso pesi un po' di più nella Lega. Devi renderti conto di questo. Forse non ci credi nemmeno tu, però pesi. troppo buono, lei è troppo buono. No, è che è troppo buono. Dal mio punto di vista, deve capire che Borghezio è una persona assolutamente intelligente. È una persona che, conosciuta personalmente, è diversa dall'immagine che si crea. E deve capire che alcune battaglie sono più credibili, più legittime, se non si esagera. Io stesso ho esagerato in passato e me ne sono accorto dopo, però passare degli anni magari uno se ne rende conto. Resta nella Lega, non lo cacciamo, questa è la cosa. Ma lo ricandidate l'anno prossimo all'Europeo o no? È troppo presto, d'accordo? Scusami, non so dove sono domani, anzi so che gioca mio figlio domani a pallone, quindi so che sono a Vittolo Predabissi, non so che cosa succede l'anno prossimo. Parenzo, vogliamo chiedere qualcosa sulla Chienghe? No, esatto, io infatti questo volevo capire dall'onorevole Salvini, cioè il fatto di avere una ministra di colore ma italiana che ha preso la cittadinanza in base alle regole di questo nostro paese, non è una cosa straordinaria simile a quella, alla cosa che ha fatto Sarkozy in Francia facendo un ministro per l'integrazione? Cioè voi dovete essere i primi a dire evviva la negra al ministero per l'integrazione, evviva la negra italiana al ministero per l'integrazione, voi dovete fare gli striscioni, le bandiere a Cologno Nord, a Cascina Gobba, a Gorgonzola, a Belgium. Attenzione che ha utilizzato la parola negra. La parola negra si può usare, Salvini? Ma sa che la prima sindaca negra di colore, come preferisce, eletta in Italia a Vigiù è della Lega. Sì, lo so. E allora il problema. No, ma si può. La parola negra ti ho chiesto, si può utilizzare o no, Matteo? Ma io se fossi negro preferirei che mi dicessero negro piuttosto che nero di colore con la puzzetta sotto il naso, non si utilizzerei su questo. La Chienghe è pericolosa non per il colore della sua pelle ma per le sue idee che secondo me sono assolutamente devastanti. Potrebbe essere alta, bionda, con gli occhi azzurri e venire dalla Nord Italia. Ma perché vuole introdurre la poligamia in Italia? Vuole introdurre al di là della poligamia, dire, far capire al mondo che la clandestinità in Italia potrebbe essere tollerata e non essere più reato è demenziale. Vabbè, ma non vuole, per adesso non c'è nessun progetto di legge serio, dai. Così ha detto, se un ministro prima di parlare si registra magari è meglio. Cioè, secondo te quelli che vogliono venire in Italia sono spinti a venire in Italia perché c'è la Chienghe ministro? I clandestini? Ormai su internet, questo vale per Salvini, per Borghezio, per la Chienghe, se io dico una fesseria alla zanzara, fra 10 minuti tutto il mondo la legge, quindi se io, potenziale clandestino, leggo che un ministro dell'integrazione dice che la clandestinità non sarà più reato in Italia e magari se devo scegliere di andare in Francia, in Germania, in Svizzera, vado in Italia. Vengo in Italia. Ti piacerebbe avere 38 fratelli? No, assolutamente no. Beh, però è bello 38 fratelli, perché no? E dove li metto? Io sto in 62 metri quadri con 38 fratelli. Beh, una famiglia con 38 fratelli in un bel villaggio con quattro madri. Dunque, quattro madri diverse. È un culturale diverso, non so. È una cosa meravigliosa, o no? basta che non voglia importarlo da noi, è una cosa diversa, basta che non voglia importarla da noi. Però deve essere bella avere 38 fratelli. Parenzo, tu vorresti avere 38 fratelli? Come? Vorresti avere, sì, vabbè, mio nonno, vorresti avere 38 fratelli? Mamma mia, no, Matteo, prima, lo paghiamo pure questo. Ma perché non mi dai uno di Radio Padania, un amico tuo di Radio Padania? Quello come si chiama, quello fenomenale lì la mattina? Mandamelo qualche volta, ti prego. Io ho detto Renzo fa l'europarlamentare, io vengo alla Zanzara, ci guadagniamo tutti e due. Matteo, come si chiama quello là che conduce la mattina a Radio Padania, quel razzista pazzesco, un personaggio incredibile, razzista in senso buono, però uno è la mele mena giù. Ci sono razzisti in conduzione a Radio Padania. Dai, come si chiama? Tommy, come si chiama quello che c'ha il nome strano? Sammy Varin, mandamelo qualche volta. Grande a due gemelli, grande, un applauso agli gemelli di Sammy. Ecco, Varin. Ma mandamelo qualche volta. Volentieri, volentieri, solo se c'è Omar Pedrini, però, è solo se c'è Omar Pedrini. E viva i neri di Biggio, che quando arrivano le strade incantano. E viva i neri di Biggio, che con la Lega vanno su, poi vanno su. Ciao Matteo! Parla tu. C'erano un grillo e una zanzara, alla gara, verso la sera, alla zanzara, col pungiglione, vinceva tutto, era un campione. C'era un delfino ed una zanzara, facevano a gara, ma la zanzara, bastone e carota, trasforma il destino in una trota. Salvini, se tuo figlio ti dice che si vuole fidanzare con una signora di colore, tu che fai? Lo abbraccio e la voglio conoscere. Vabbè, normale, come tutti, insomma, non fa nessuna differenza. Il problema è se mi porta a casa una interista di sinistra. Non sarebbe un problema. Beh, tu però eri di sinistra una volta, o no? Io continuo a ritenermi di sinistra e continuo a ritenere che alcuni valori, la difesa dell'ambiente, la difesa dei deboli, li incarni la Lega e non la sinistra. Sì, sì, d'accordo, però allora perché non vuoi che ti porti una interista di sinistra? Ma no, di quelle sinistre di Milano che stanno in galleria, che vanno in giro in biciclette, che hanno 7 milioni di euro sul conto corrente e la Ferrari nel box, ecco, quelle non mi stanno simpatiche. Comunque, guarda, io ti dico una cosa, è possibile che Maroni, tu l'hai visti insieme, è possibile che Maroni non abbia detto nulla a Bossi dopo quello che... Cioè, davanti a noi no, abbiamo letto i risultati elettorali che sono meno peggio di quelli che si è letto, ma i due anzi scherzavano, quindi non so se poi Bossi sia stato frainteso, perché ma che poi frainteso? Quotidiano, che ne ma so. Che è fatto quotidiano, dai su, cioè non mica smentito nulla. Il fatto quotidiano, io sul mio conto ho letto sul fatto quotidiano robe inenarrabili che ho capito, ma qui si tratterebbe di avere cambiato tutto, non mi pare che Bossi abbia smentito nulla, cioè Maroni ha distrutto la Lega, adesso me la riprendo, ma c'è possibilità che Bossi riprenda la Lega, sì o no? No. In Lega decidono i militanti, ma tendo a escluderlo perché i militanti guardano avanti. Per Bossi c'è affetto e riconoscenza infinita, ma si va avanti, non si torna indietro. Non si torna indietro. Però scusa, se ne poteva risparmiare queste cose, già l'hai detto, era meglio non farle queste cose. Non serve, perché è come quando c'è una sconfitta, è inutile dire è colpa del terzino, dell'allenatore, è colpa di tutti. Quando si vince è merito di tutti, quando si perde è troppo facile scaricare la colpa su Tizio e su Caio. Maroni è da due mesi che è presidente della Regione Lombardia, ha fatto più lui in due mesi che vabbè, quello adesso poi 10 anni, quindi diamogli tempo. Però scusa un attimo, aveva detto che si dimetteva, poi non è successo nulla. Gliel'abbiamo chiesto noi di aspettare, ha detto che si fa il congresso in primavera, secondo me dimettersi in un momento di casino politico, economico, la gente in questo momento non ha voglia, secondo me, di congressi, delle polemiche di Grillo, di Renzi, di Alfano, di Maroni e Bossi, dobbiamo parlare di meno e lavorare di più, punto, tutti, Bossi compreso, stia un po' zitto, non ho l'autorità di dirlo, diciamo. Lui ne ha 70, però... Chi vuole bene alla Lega in questo momento lavora tanto e parla poco. Ecco. Salvini che viene invitato alla Zanzara. Ma Salvini che parla sempre in realtà. Cioè, comunque il tuo invito a Bossi è parla poco, parla poco. Caro Bossi parla di meno, parla poco. State zitto, forse è meglio, no? State zitto suona anche male, nonostante abbia tanti amici su Facebook da Roma e dintorni, però state zitto non... Senti, non so come... allora io voglio capire una cosa. Perché Parenzo è scomparso? Facciamo, facciamo. Sono qui. Facciamo. Fai una domanda. La Lega, però, questa non è colpa della Lega. Non è, no, non è colpa della Lega. Però di qualcosa. No, Parenzo. No, ma giusto, sono qua. Giusto qualcosa, così, tanto no, per farci. Ma stavo parlando prima, ma interrotto, ti ho detto che non ho capito perché. Non ho capito perché Salvini è contrario alla poligamia, cioè qual è il suo problema col fatto che uno abbia più mogli, non ho capito qual è il suo problema. Ma ce l'ha anche, più mogli ce l'ha avute, solo in successione diversa, in una dopo l'altra, diciamo. Una alla volta è meglio, anche perché va bene che bisogna dar lavoro agli avvocati che ci stanno ascoltando, però è già un casino così, abbiamo trovato con fatica €1 milione per i genitori separati a Milano, se c'è la poligamia viene fuori un casino. Adesso la domanda che facciamo ormai a tutti, sulla base della teoria di Grillo sulla prostata, la voglio fare anche a Pedrini che è ancora qui, la domanda è questa: tu hai problemi di prostata? Ho tanti problemi, fortunatamente, nonostante i 40 anni, ancora non di prostata. D'accordo, ancora non di prostata, però per salvare il salvabile, quando sarà, per anticipare i tempi, il consiglio di Grillo è questo. La prostata, per curarla, l'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare! Hai capito? Lo dice il British Medical Journal, sì! O se no fai altre cose. Il British Medical Journal dice 21 eiaculazioni al mese. Io sono a 18, quindi 21. Allora, prima Pedrini, a quanto siamo? Pedrini, gli è nato un figlio da poco, è impossibile, siamo indietro qui. Io ho fatto tombola la prima. No, d'accordo, a quanto siamo? Poco, Poco, pochino. Poco, siamo indietro, Ma è la prostata. Devi recuperare, sì, mi raccomando, 21 al mese, tanto 21 al mese, Caspita. Però non si dice che non si dice come, diciamo, no? Puoi fare anche, cioè, puoi fare anche da solo. Okay. Salvini, come sei messo tu? Ho una bimba di 5 mesi. però è passato il postino giusto... anche da te, non solo da me. Sì, che ha gli occhi azzurri, peraltro, che non hanno né il papà né la mamma. Io mi faccio una maglietta con scritto che mia nonna aveva gli occhi azzurri, altrimenti è un problema. Però dicevi giustamente tu che non bisogna necessariamente essere in due, comunque. Lo so, cioè, stai dicendo che è un periodo in cui. Beh. Ma raggiungi queste 21 di Grillo oppure no? Adesso. magari Beppe, secondo Woody Allen masturbarsi è fare l'amore con qualcuno che si stima veramente. Sei d'accordo, Matteo? Assolutamente sì, non tradisce. Cioè, allora, la cosa è questa, che sia Pedrini che Salvini sono in una situazione drammatica, perché secondo me non trombano da mesi, questo è il punto. O comunque sono a una media di uno al mese, una cosa di questo tipo. Forse poi esce un'immagine dell'uomo lombardo poco focoso che non corrisponde a verità. Forse la polenta, forse la polenta. Vabbè, ma che c'entra che hai fatto i figli? I figli non ci si possono fare pure facendosene uno e basta, cioè, ma che, non vuol dire nulla. Va bene, ciao Matteo Salvini, ciao Leonardo da Ferrara. Leonardo, vada. Pronto? Sì, vada. Buonasera Crociani, senta, volevo replicare prima lei all'ascoltatore che ha detto che non era d'accordo con l'adozione dei bambini delle coppie gay, ha risposto la natura, come dire, ma a lei risulta che sia mai nato un bambino senza uno spermatozoo e un'ovocita? Perché a me no, io mi occupo di medicina della riproduzione, se lei ha notizie che un bambino possa nascere senza l'incontro di uno spermatozoo e un'ovocita sarei curioso, perché lo pubblichiamo magari. Guardi Leonardo, ovviamente era una battuta, voi prendete sempre le cose, prendete troppo sul serio tutto quello che viene detto, era una battuta, cioè la natura era per intendersi, sì vabbè la natura, ma la natura delle regole ben scritte a cui sì, finora d'accordo, guardi, allora io voglio che lei mi dica, io voglio che lei mi dica, perché sì. Io adoro le persone che sono contro l'adozione agli omosessuali, però lo dicono esplicitamente, cioè non appellandosi alla natura, a queste cose, dicono: a me non mi piace l'idea che un bambino possa essere allevato da due donne o da due uomini, non mi piace, ma non perché la natura, mettendo in campo questo argomento qui, la natura, ma che vuol dire? Vero, Cruciani, ma che vuol dire la natura? Anche, ma la natura fa ci sono degli obbrobri in natura pure, ci sono anche degli obbrobri. Obbri natura. Assolutamente. E allora? Però per ora è ancora necessario uno spermatozoo e un'ovocita, altrimenti un bambino non nasce. Per cui l'obiezione dell'ascoltatore di prima mi sembrava pertinente, non da presa in giro, solo questo. Si che dice? Guardi, Leonardo, ma è evidente che un bambino non può nascere da se non tra un uomo e una donna, a parte quindi i casi in cui ci sia l'inseminazione o queste cose. No, no, no, no, no, anche in quei casi ci deve essere sempre lo spermatozoo e l'ovocita. D'accordo, però ci sono casi di inseminazione, la donna può avere dei figli anche da sola, o prendendo degli spermatozoi di un altro uomo. Con lo spermatozoo di un altro uomo, certo. Certo. Sì, e dunque? E quindi l'obiezione dell'ascoltatore di prima era giusta, nel senso che la natura finora... Non ho capito, secondo lei, secondo lei gli omosessuali sono contro natura? No, assolutamente, però non faranno mai figli tra loro. Ma questo è evidente questo è che certezza. Non fa... Ma questo non faranno mai figli. Lei, dicendo questo, cosa vuol dire? No, io stavo solo replicando la sua obiezione dell'ascoltatore di prima, tutto qui. Poi che io sia d'accordo o meno è ininfluente ai fini della cosa. Però è vero che la natura prevede una sola possibilità di concepimento, ancora altre non ce ne sono. Quindi noi, dando l'adozione alle coppie gay, in qualche modo forziamo questa cosa, poiché sia giusto o meno... Cioè lei sta, lei sta dicendo che può essere compromesso l'ordine della natura, cioè no, ci saranno meno nascite, qualcuno lo dice, andremo incontro all'estinzione dell'essere umano? Beh, insomma, se dovessimo aspettare aspettare che l'umanità si riproduca attraverso le lesbiche e i gay, è ovvio che andremo incontro all'estinzione, ma questo, voglio dire, non credo che sia quello lo scopo, o no? Ma lei ha la voce simile a quella di Haber. No, io sono di Ferrara, non sono Haber io. Leonardo da però Ferrara. Lo stimo molto Haber. L'altro morto vivente là, dov'è l'altro, il morto che cammina, il Parenzo? Garbi? No, Parenzo, il morto che ma cammina. Guarda, io sono sempre qua, ti ascolto, non intervengo perché sennò mi dici che sovrappongo la mia voce. No, non intervieni perché non hai un cazzo da dire, cioè non perché sovrappongo la voce. No, da dire, provo a dire, ma che cosa vuoi che dica? Cioè, parlo, mi dico pronto! E non si sente. E io, ma Parenzo, lo pagate voi per fare trasmissione? Lo paghiamo, sì, lo paghiamo. Allora? Vabbè, Marco dalla provincia di Pisa, su, tanto non c'è. Quando uno non c'è, non c'è. Quando non c'è la testa, non c'è. Marco dalla provincia di Pisa. Sì, buonasera a Cruciani. Sì, prego. Volevo parlare del processo di fede, di quello che avete detto prima su San Gemmano. Volevo dire che le conseguenze di non frequentare i luoghi frequentati da minori, le scuole, eccetera, non è una decisione del PM, è la legge che lo dice. Cosa? Che quando una persona viene condannata per il reato... Nessuno dice il contrario, nessuno dice il contrario. No, vi siete stupiti, è il PM cattivo che crocefigge fede, cioè ne abbiamo sentite di tutti i colori. Ma io dico semplicemente che in una requisitoria, anche se è una requisitoria, certo, parlare di pascolare non è bellissimo, però io me ne frego perché... Retoriche, no, ma infatti le sto dicendo anch'io, le requisitorie sono retoriche, è così in una requisitoria, certo, a me l'idea che questi PM vogliono dare delle ragazze non mi piace, glielo posso dire, non mi piace sì, non mi piace. E poi io sono dice, hanno insultato la mia famiglia. Vabbè, ma quello sono le cose di fede. Io dico solo una cosa e la ripeto, chiunque è libero di fare quello che vuole, di vendere il proprio corpo anche a pagamento, e questo qua non è un reato, perché altrimenti bisognerebbe perseguire tutta Italia. È pieno di gente in Italia che va a mignotte ogni giorno pagando 1.000, 2.000, 3.000 euro ogni santissimo giorno. Io qualche volta mi hanno consigliato, per esempio una volta, non è che conosci per caso due russe a Milano o due persone a Milano per... Sì, è vero, lo confesso, è successo. Ho detto sì, guarda, ti do un numero di telefono di un mio amico che conosceva due persone, 1.000 euro a sera, l'ho fatto da intermediario. Mi dovete mettere sotto processo per questo? Sarei da mettere sotto processo, secondo lei? Ho indotto la prostituzione? Ma quale legge? Ma di che parliamo? Ma di cosa stiamo parlando? È vero, una volta ho dato il numero di telefono di una persona che a sua volta conosceva delle prostitute russe, ho dato il numero di telefono di una persona, esatto. Per, e se ti piace così? Ma che c'entra che se mi piace così? Conoscevo una persona. Se ti piace così, cioè se conosci quelli che conoscono le puttane russe, sì, se ti piace sì, così. Conosco quelli che conoscono le prostitute russe, li conosci anche tu, non fare il fighetto, non fare il puro, perché li conosci anche tu, non fare il così, quello là, se ti piace così, quello tutto distante, tutto distaccato. Chiunque di noi conosce delle persone che hanno dei numeri di telefono e ti mettono in contatto con persone che prendono 1.000 euro a sera, sì, allora qual è il punto? Io sarò retro, ma non conosco né puttane né puttane, sì, russe, vabbè, né intermediari di puttane russe. Se tu le conosci e ti piace così, evviva la libertà e viva tutto. Dopodiché, siccome non è di questo, li conosci benissimo, parlando, pubblicità. Soprogio e me, perché c'è da ridì, non vedo che problema c'è, mettiamola così. Soprogio e me, e che ce posso fa, sono libero di scegliere, ce l'ho sta facoltà. Amicone, le sue posizioni è come se noi facessimo un dibattito sul razzismo e invitassimo un esponente del Ku Klux Klan. Lei, le sue opinioni non hanno una dignità pari a quella di chi chiede uguaglianza. Questo è il tema. Perché introducono un'idea di superiorità morale. Il razzismo è precisamente nella tua posizione. No. Nella tua posizione. Ripeto, la tua posizione è così o non è così? Io ho un diritto indiscutibile. Certo, di parità con lei, amicone. Io sono nato uguale. Qualche dubbio ce l'avrei. Tra l'altro lo sai, siamo buona compagnia. Erano Scalfarotto contro Luigi Amicone, sempre su questa questione dei game. Io voglio far risentire, caro Parenzo, beh, il nostro amico Mandarà, il nostro amico Mandarà, che oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui te la... sì, te lo faccio riascoltare. Mandarà. Non puoi dire, io adesso non voglio urlare perché sennò si distorce la mia voce. Non voglio urlare, ma dimmi se posso urlare. Tu non puoi dire una cosa, ha rilasciato delle dichiarazioni. Ma chi ha rilasciato? Ma cosa vuol dire che ha rilasciato delle... Ha fatto un video, signor Mandarà. Ma cosa vuol dire ha rilasciato delle dichiarazioni? Cos'è che rilasciava dichiarazioni? Andreotti rilasciava, Mancino, Salvo Lima rilasciava dichiarazioni. No, Letta rilascia dichiarazioni, Scajola rilascia, non Mandarà. Mandarà non rilascia dichiarazioni. Mandarà è uno qualunque che gira con una telecamera, riprendeva spettacoli di Grillo, è un nessuno. Mandarà non rilascia alcuna dichiarazione. Mandarà sveglia. Ho deciso che quella di oggi sarà l'ultima puntata di Mi scappa la diretta e ho deciso di lasciare questo paese. Questo è il motivo per cui oggi vi sto parlando. È stata una decisione che molto sofferta, che ho preso ieri. Ovviamente devo ancora vedere i tempi, probabilmente sarà a settembre, non lo so. Devo vedere, devo trovare una sistemazione altrove. Ma io non intendo più vivere in un paese come questo, come l'Italia. Devo decidere i tempi, capito Parenzo? Devo decidere i tempi, non lo so, forse a settembre. Ma non è l'esilio del re, cioè non è l'esilio in Portogallo, cioè di cosa stiamo parlando? Poi oggi in alcune interviste dei giornali dice: beh sì, forse però vado via per i miei figli. Non si capisce. Senza che io, senza farmi arrabbiare, dal fatto che il signor Mandarà, alias signor nessuno, per milioni di cittadini italiani, dica, cioè chi è il Mandarà? È uno che riprendeva gli spettacoli di Grillo. Se ne va fuori dai coglioni, ma chi se ne frega? Ma secondo te chi lavora ogni giorno? Un notaio, un avvocato, un operaio dell'Ilva, secondo te, un operaio dell'Ilva si sveglia la mattina e dice: cazzo, cosa farà oggi Mandarà? Ma secondo, quindi non puoi attribuirgli tutto questo ruolo. Ha rilasciato una dichiarazione, riflette se andare via. Vai via! Vai via subito, Mandarà! Subito! Vabbè, ma adesso mo stai zitto? Ok, hai fatto il teatrino, stai zitto. Soprogio e me. Urne flop, oggi al Fatto Quotidiano, urne flop, sempre Mandarà, urne flop, mi ero illuso, me ne vado. No, quello là era Riccardo da Roma, Senti, ho capito che la speranza che le cose cambiassero era un'illusione, il processo è lento. Avevo scommesso che avremmo preso 40 comuni, pensa che genio questo qua, avremmo preso 40 comuni, invece probabilmente non ne avremmo neanche uno. Mi sono fatto prendere dal panico, sono un sognatore. Siamo stati vittime della trappola dell'informazione, come me del resto. Sono stato stupido, ho prestato il fianco agli attacchi. Tutti a dire ho litigato con Beppe, ma io non potrei mai, per me è come un papà. Voglio dare ai miei figli un futuro diverso. Io spero che il governo cada presto, ma se si vota nel 2014 magari riesco a tornare, almeno d'estate, di nuovo sui palchi. Salvo Mandarà! Mi piace l'odore che hanno i maschi tra le gambe, mi piace tutto quello. Io non voglio assolutamente più vivere in uno stato di merda come questo, dove c'è un popolo di merda. lo so, adesso mi sto attirando l'odio di tutti coloro che mi seguono, lo so benissimo, sono consapevole di questo, non mi importa. Perché c'è da ridì, non vedo che problema c'è, mettiamola così, soffrogio e me, e che ce posso fa. Io sono felice che Ignazio Marino diventi sindaco di Roma, perché secondo me è una grandissima, brava persona, Ignazio Marino. Purtroppo vive all'interno di un partito che è un partito di merda, pieno di mafiosi e delinquenti. E quindi credo che anche Ignazio Marino, pur essendo una brava persona, non potrà fare nulla di buono per Roma e per questo paese. Hai capito, Parenzo? No, adesso voglio dire, io non capisco, ma non voglio arrabbiarmi, non capisco perché lo tratti come fosse Stefano Folli o Angelo Panebianco. Cioè, del giudizio del signor Mandarà su Ignazio Marino, detto con rispetto e detto in tre parole, chi se ne fotte? Che se ne fotte del giudizio del signor Mandarà? Ma perché? Ma non è già partito? Ma perché? Ma anziché fare annunci? No, oggi a Genova, oggi a Genova. Ma è a Genova a fare cosa? Con la telecamerina a riprendere cosa? Lo tsunami tour ancora, dove c'è quell'altro che sale su un palco e dice tutti a casa, arrendetevi, e quell'altro che riprende. Ma è questa l'innovazione? Cioè, uno che riprende con una telecamera, che riprende un altro che ogni volta che va su una piazza dice tutti a casa, fa schifo, è la me una merda, e dovete fare il gargarismo con l'urina. Cioè, due personaggi tragici, ma sono tragici. Mandarà da una parte con quella telecamera, costretto a riprendere uno che in tutti i posti dove va dice ma dovete pulirvi con l'urina, fare i gargarismi. Vabbè, non dice questo, dai, su. Questo è il quadro. Carlo da Pescara, buonasera. Personaggi tragici, tragici. Carlo. Sì, mi sente, buonasera. Dica. No, volevo chiederle, dottor Cruciani, le ragioni di questo ampio spazio dedicato a Fede questa sera, una specie di perorazione. Oddio mio. Oddio, ma quale perorazione? Ha parlato, ha detto la sua, tanti dicono la loro. Qual è il problema? Qual è il problema? Qual è il problema? Insomma, qual è il problema? Non mi è sembrato una roba da Robin Hood, sinceramente. Da Robin Hood lei cosa? Gli è andato dietro, ha ripetuto le sue cose, poi ha intervistato Sgarbi sullo stesso argomento. Sì, allora qual è il problema? Ma è stata presentata la cosa come se fosse una grande tragedia. Che guardi, qui non esiste bilancino, io faccio il cazzo che mi pare, invito chi mi pare, invito chi mi pare, ma non c'è un motivo, perché me la sento così. Ah, ho capito. Non c'è un grande complotto, capito? Io invito chi voglio. No, non c'è. Spiegare le proprie ragioni non è complottare. No, ma qui non c'è nemmeno da spiegare le proprie ragioni. Fede, oggi il PM ha fatto la requisitoria, Fede ha reagito, ha detto delle cose anche forti nei confronti di San Germano, che si dovrebbe vergognare. Subito dopo mi ha chiamato Sgarbi in diretta, voglio dire due cose su San Germano, benissimo, o sul PM, sui PM che hanno fatto questa requisitoria. Domani i giornali saranno pieni. No, ma dico, ma lei i giornali saranno pieni. Fede sta simpatico e l'ho voluto sentire, non c'è mica niente di male. No, eh? Ma non è che mi sta simpatico, penso che abbia delle cose, voglio dire, non ci ragiono nemmeno troppo perché Fede e non un altro. Mi piace avere Fede in diretta perché per mille motivi, lo mando in diretta, no, qual è? Ma che cos'è? Bene, che cos'è che l'ha scandalizzata? Non capisco dov'è, no, lo scandalo. Io non sono per niente scandalizzato, semplicemente mi è sembrato un po', come si può dire, tra il corporativo e dare un aiutino a chi non ne ha bisogno, insomma. Corporativo e aiutino, corporativo proprio no, perché a me della corporazione non me ne può fregare di meno. Aiutino, vabbè, però, ma quando si tocca un giornalista. Ma quale giornalista? Ma perché lei è così dietro l'O, sempre a pensare che ci sia dietro chissà che cosa, aiutare qualcuno, dare una mano a qualcuno? Ma come spesso faccio, a me è sembrato. Ma dare la mano a qualcuno che a me non mi interessa, dare la mano a nessuno, Penso che posso pensare che sia una buffonata il fatto che quello è accusato di induzione alla prostituzione. Io penso sì, è vero, lo penso, è una buffonata. Penso allora, che sia una bene. Buffonata. Okay. Nonostante il fatto che i magistrati abbiano fatto delle indagini su un reato e c'è l'obbligo. Ma io non penso neanche, cioè non penso lo so, che sia una buffonata, francamente. Quello lì. Ho capito, ma non è che tutto quanto non è che tutto è semplicemente perché sì, c'è un'ipotesi di reato, va bene. Di, cioè, il diritto di pensarlo, perché io non dico mica che va bene assolutamente, però si vedrà, no, se va bene o se va male. Sì, ma non è che anche se viene processo, condannato, non è che non si possono giudicare. Non c'è bisogno di, come dire, urlare al sacrilegio, perché a d'altra parte tutti insomma ormai hanno una rappresentazione più o meno di quello che è successo, ci sarà chi è d'accordo, chi non è d'accordo, chi pensa che non è reato, insomma però manco mi sembra un grande sacrificio, è una causa come tante altre, no? Parliamo di gente che sta bene, la gente più ricca del mondo. Ma no, ma gente più ricca del mondo. Tutti, penso che abbia tutti i mezzi per difendersi senza problemi, insomma, no? Sì, no, ma infatti non sto dicendo mica che, la, che è come un poveraccio qualsiasi che viene messo in galera. Vabbè, questo ci mancherebbe. Buttando le chiavi, non ho affatto detto questo. Penso che accusare qualcuno di induzione alla prostituzione perché porta qualche donna a casa di induzione alla prostituzione, ripeto, lasciamo perdere la questione dei minori, di induzione alla prostituzione perché porta a casa di Berlusconi qualche donna sia una stupidaggine. Detto questo, poi magari sarà approvato, non lo so. Massimo da Trento, buonasera. Ah, Massimo. Buonasera. Io volevo parlare ancora di Emilio Fede. Lo volevo dirle, faccio fatica a credere che Emilio Fede abbia veramente fatto tutto quello che si dice, però faccio ancora più fatica a pensare che un pubblico ministero, o due, quanti sono, possano inventare oppure fare cose, inventarsi, dire qualcosa, avranno qualche prova, la legge la conoscono, quindi non so se c'è dietro qualcosa, se cosa ne pensate. Fabrizio da Verona, grazie. Fabrizio buonasera. Da Verona, dica. Io sono scandalizzato di quella faccia da maiali che hanno i nostri politici con la storia del finanziamento ai partiti. Perché non si vendono un po' di capitali e di immobili che hanno per pagarsi? In 3 anni se lo fanno scaricare questo. E noi invece dobbiamo pagare immediatamente tutto. No, e vengono a bussare, lei ha ragione. Alla mia porta per chiedermi il finanziamento e come acconto gli do subito 2 calci nei coglioni, come acconto, e dopo vediamo, in 3 anni, ma siamo pazzi, questi ci prendono per il culo tutti, sapete. Lei ha ragione Fabrizio, lei ha perfettamente ragione, quando si chiede a un cittadino un sacrificio, questo sacrificio al cittadino lo si chiede subito, lo si chiede sull'unghia. Lo si chiede immediatamente, lo si esige immediatamente, anzi qualche volta pure retroattivamente. Adesso invece si tratta dei partiti, si tratta di alla fine poche centinaia di persone, però sono quelle più vicine ai capi del partito, magari sono i loro, no, le persone che hanno messo loro, i loro clientes, sono persone molto vicine a loro, sono state assunte dai capi partito, dai capi corrente, e allora tutto diventa graduale. Tutto improvvisamente si trasforma, bisogna che passino 3 anni. E in questi 3 anni che succede? Continuiamo a prendere i soldi dello Stato. Siccome si tratta di affari loro, siccome si tratta di loro famigli, siccome si tratta di loro famigli, e allora la cosa deve essere graduale. No, dimenticatevi le cose che dicono sulla democrazia, i partiti, ci vogliono 3 anni, in 3 anni. No, non c'è niente di tutto questo, è che quando si tratta di roba loro, quando si tratta di persone più vicine a loro, e le cose cambiano, e allora diventa tutto più graduale. Quando si tratta invece di tasse da mettere nei confronti dei cittadini, poi le pagano pure loro naturalmente, e allora tutto si può fare e si chiedono i soldi seduta stante. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Secondo Berlusconi i PM sono patologici. Secondo Berlusconi, caro Parenzo, i PM sono patologici. Anzi, quel PM è patologico. È giudizio di un imputato, per cui. No, in questo caso non è imputato, vedi che. Ma è giudizio di un imputato in un processo, diciamo, vicino. Analogo, sì, analogo. Il PM che ha chiesto 7 anni per Fede, Mora e Minetti. L'accusa: assaggiavano ragazze come vini. Mi adorano così, forse un giorno. Patologia giuridica, una pagliacciata, la prossima udienza parlerò io, dice Fede, che però ai nostri microfoni ha detto qualcosa di più pesante nei confronti di San Germano e di alcuni dei PM là a Forno di questa inchiesta, no? Su Fede, Minetti e Mora, hanno chiesto 7 anni e ha detto è una vergogna, si devono vergognare nei confronti della mia famiglia. Ma è con noi un grande uomo di teatro, ritorno alla Zanzara per Bebo Storti, buonasera. Buonasera. Come andiamo, caro Storti? Ho subito un bel detto di mio nonno, che era male non fare, paura non avere. Beh, quello è ottimo, sempre così, sempre così, perché tu fai niente, non troverai sicuramente un magistrato più o meno patologico. Ah, tu dici, se male non fare. Me, se tu non fai niente, sei onesto, non ti viene a rompere il cazzo nessuno, però... Forse è un'opinione mia. No, quello in linea di massima è così. Però ogni tanto, lo so, però capisci che qui in qualche modo si mette sotto processo il sesso, no? Si mette sotto questo processo? Il sesso o no? No, il sesso fatto con ragazze che venivano pagate, questo poi è tutto da provare, bisognerà vedere questo circuito vizioso e libidinoso di toccacciate, assaggiate, soffoconi, ginocchiere, via dicendo così, insomma, questo grande giro, mi spiace per le ragazze, ma a me alla fine questi porci, che se lo sono stati o meno vecchi o meno vecchi, diciamolo, si approfittino pagando e tanto, anche perché qui tantissimo, sono fior di conti, quindi le ragazze sono state astute, hanno raggirato questi vecchi rincoglioniti dalla senilità, non in senso, la cosa che più mi fa specie è sapere che ci sono tante ragazze pronti a vendersi per un piatto non di ceci ma di doblone, a questo punto mi viene da pensare. Beh, però scusa Bebo, da che mondo è mondo, questa cosa c'è sempre stata, bisogna ammetterlo. Dici, dopo il politico il mestiere più antico del mondo è la puttana, questo vuol dire. Chi è che non, no, in quale società non ci sono ragazze disponibili a vendere il proprio corpo per fare televisione, per fare carriera, per comprarsi la smartina, per comprarsi l'appartamento? Io lo reputo una cosa così, cioè, certo, poi c'è il Presidente del Consiglio, un'altra cosa, Beh, questo non è proprio una cosa, no, una cosa da niente, insomma, ci rappresenta in giro per l'Europa e per il mondo, ci ha rappresentato dicendo culone inchiavabile e recitando poesie con la bestemmia su Rosy Bindi, che ha un solo difetto, che non è una fotomodella, ma questo in genera poi un atteggiamento nei confronti delle donne che è vecchio, stupido, ritrito e che forse, non dico per colpa di Berlusconi, ma che poi porta a un atteggiamento generale che fa salire in piedi Sallusti in Parlamento dicendo non rompere i coglioni alla Boldrini, esatto, e nessun parlamentare che si sia alzato dicendo stai zitto animale, non ci rompe i coglioni, non l'ha detto in Parlamento perché non c'è in Parlamento Sallusti, certo, però l'ha detto al Presidente della Camera, ha detto non ci rompe i coglioni, non ci rompe i coglioni, questo. Allora, capisci? Ecco, quando tu vedi il signor Sallusti in faccia in televisione, no Parenzo? Ecco, Bebo Stordi, grande attore di teatro, ma è stato anche alla Regione Lombardia, ma insomma, pensa, vede a Sallusti, non lo vede anche come un grande personaggio teatrale, un viso teatrale? Bebo? No. Per quanto io abbia fatto personaggi orribili, non arriverò mai a poter fare. A poter fare Sallusti? Non ho la coscienza, non ho il physique du rôle, non ho lo spessore per poter fare Sallusti, mi spiace che lo faccia qualcun altro che se la sente, ma per tanti soldi, però tanti soldi, ma perché quando vedi Sallusti in faccia cosa pensi? Quando vedo Sallusti in faccia, penso quello che dice, quello che ha scritto, quello che ha fatto, e di solito cambio canale, oppure corro in bagno a vomitare, dipende. E la Santanchè? La Santanchè, guarda, io delle donne non parlo mai male, perché faccia il cazzo che vuole. Ha detto che è gay, che è lesbica. Sì, ha detto provocando. Sì, va bene. Perché dice che... Non è il fatto che sia gay o meno che dovrebbe far pensare gli italiani, ma sono i soldi spesi nel suo ministero senza, mi par di ricordare, combinare un famoso belino, questo è grave. Quando era in realtà sottosegretario, no, che cos'era, non mi ricordo. No, sì, era... aveva un sottosegretariato a caso, non mi ricordo, uno dei tanti, che il nostro premier allora distribuiva con grande eleganza e grande generosità. All'attuazione del programma. Del programma. Ma scusa, il tuo, come dire, anche lui attore, eccetera, Villaggio, hai sentito che ha detto qui che da noi sulla Chiesa? Grande tristezza, grandissima tristezza. Vedere invecchiare così in mano una persona, sentir dire una cosa del genere a una donna, tra l'altro, d'una carineria, d'un'eleganza e d'una competenza, mi sembra di intuire dalle prime mosse, come la ministra Kyenghe, mi sembra è vergognoso. Beh, ha detto... Anche se uno lo pensa, anche, ma tientalo per te, ma perché devi rompere i coglioni a una brava donna così? Ma cioè, una volta, quando uno si permetteva di rompere le palle alla gente, poi doveva motivare questa cosa. Oggi tutti parlano, non so se avete notato voi, della Zanzara, che siete molto molto pronti sempre sul pezzissimo, cazzo, chiunque si sente in diritto di poter dire qualsiasi cosa, è come se io adesso dicessi che siccome la Santanchè ha detto che è lesbica, io dicessi ma che cazzo me ne frega, ma io non farò mai una cosa del genere. Beh, non ci vai leggero, dire, ma sarà quello il guaio, ma quello sarà un bene per lei probabilmente, eventualmente, no? Il guaio è un altro, il guaio è che sia in Parlamento forse, o che gli si potrebbe mai dare un ministero, quello è il guaio, che siamo governati da gente, mi si passi francesismo, ridicola, ecco. Parenzo, sei morto? Come? No, no, io ci sono, mi penso che tu mi senta anche molto bene. Molto bene, ora. Molto bene, molto sì. bene. Bebo Storti molto scatenatissimo questa sera, è tornato anche sì. d'attualità Storti Brunetta, perché vuole che proporre... Non ancora detto che è su scherzi a parte, mi sembra di no. No, no, no. ancora non hanno detto, no, no. Di vuole proporre un... non solo lui, una legge per limitare, per difendersi dalle manifestazioni, diciamo. Dalle manifestazioni. La gente non può contestare i politici, diciamo. Sì, non può contestare le manifestazioni degli altri, diciamo. Io ho visto il filmato, la sensazione che a Brescia, che ho avuto, sì. sì, a Brescia, non è che lo stessero contestando motivatamente su argomenti specifici, lo mandavano a fanculo proprio, cioè, sì, tutti, me. Tutti in realtà. Secondo me sì, che non poi sia giusto o sbagliato non sta a dirlo, ma secondo me Brunetta dovrebbe fare un'altra legge, che non si può mandare a fanculo un politico, ecco, magari quello, non so. Ah, tu dici proibire il fanculo al politico? Il fanculo ai politici, no, io non è che glielo consiglio, secondo me loro vogliono fare quello, no? Tutte le mattine a messa alle 8, poco lavoro, lavori fino a 75-76 anni, stipendi ridicoli, ti tratteniamo un tot a caso durante l'anno, se qualche imprenditore del cazzo o qualche ministro del cazzo sì. non è riuscito a attuare un programma decente per salvare il paese, tutti regimentati e guai a dire stiamo arrivando verso un orwellismo, mi passate questa roba da fighetto, cioè arriveremo a un grande fratello che controlla tutto, credo, non lo so. Dici? Forse, no? Ma sei preoccupato tu, a me non me ne frega. Molto, anche questa cosa del web che continuamente vogliono, anche questa cosa dell'amnistia, adesso tutti devono, adesso il povero Berlusconi si acchiappa 4 anni qua, 5 anni lì, viene interdetto e poi sono cazzi, non può più fare il presidente del... No, non può più stare in Parlamento. Milan, capito? E quindi sono tutti preoccupati e siccome non riescono a trovare una scappatoia, sì. perché anche se lo fai senatore a vita si acchiappa quello che si deve acchiappare, finiremo per avere un'amnistia. Ma hai sentito Grillo su Rodotà? Sì, anche lì, ma sai com'è. Una miglior battuta l'ha detto un mio amico che fra l'altro lo ha votato, perché sì, qui sì. insospettabilmente lo ha votato, ha detto deve essere fisiologico che a una certa età i comici genovesi rincoglioniscono, così. Ah, si è rincoglionito pure lui secondo te? Un po' sì, perché lo vedo che gli è scesa molto la catena, in realtà il Movimento 5 Stelle... No, ma come qualcuno l'ha paragonato a chi? A quello che mangia i propri... Crono che mangia crono. I figli, sì, cioè crono, si sta mangiando tutti quanti in rapida successione. Una rivolta più forte che poi le persone stesse, che mi sembrano tutti dei galantuomini quelli che sono andati. Ma l'hai sentita quella sulla cosa? L'hai sentita quella sulla prostata di Grillo? Quella è eccezionale, un pezzo di teatro formidabile. No, adesso no, te la faccio sentire, senti. La prostata, per curarla, l'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare. Hai capito? Lo dice il British Medical Journal. Sì! O se no, fai altre cose. Il British Medical Journal dice 21 eiaculazioni al mese. Io sono a 18, quindi 21. Beh, secondo me un po' è andato, eh. È recentissimo, no, però, questa è grande, però è un grande. No, è un grande. Nella sua visione di una società bella in cui chi va in Parlamento lo fa per servire il popolo, vi ricordate, no? Servire sì, il popolo. Sì, servire il popolo è una roba passata, sì. Nel suo, beh, non così tanto, no? sono 60 anni, cioè non c'è no. 47, cazzo. Quindi è 37, tu, perché tu eri, 38 tu, anni fa. Tu eri con servire il popolo? No, io sono sempre stato un anarcoide, io non mi sono mai schierato veramente. Vabbè, d'accordo, però non è che... Cioè, però questa visione è bella, cioè adesso lascia stare che probabilmente il Movimento 5 Stelle fallirà, non lo so, io mi auguro di no. Che riesca a fare un'opposizione seria e vera su argomenti importanti, a parte che non glielo fanno fare perché ha fatto l'inciuccio, gliel'ha messa in culo. Adesso si passa il francesismo, gliel'ha messa in quel posto, quindi ormai non c'è più niente da fare. Gli 8 punti di Bersani proposti al Movimento 5 Stelle come proposta di vabbè, questa roba passata ormai era ridicola, cioè mancava solo come sistemare il lamierino, capito, sui portatress in campagna come punto importante per il paese, cazzo. Secondo me comunque questa bella visione della politica a me affascina ancora, io la sogno tutti i giorni, mi vedo politici come in Danimarca che vanno in bicicletta e invece che con le auto blu, che non registrano auto costosissime come auto di scorta. Cioè ti piace questo pauperismo della politica, questi politici? Mi piace molto questo voler dire a chi si occupa di politica, guardate che voi siete lì pagati da noi, peraltro, perché sono pagati da noi, per fare delle cose, anche importanti. E invece c'è ancora Berlusconi al governo, eh? primo, che non dà c'è le carte. Una legge contro la corruzione. Che dà le carte, Berlusconi che distribuisce le carte. Secondo me alla fine questa visione grillina di Grillo per me resta affascinante, poi lui può passare un momento di sbarellamento, secondo me è andato a sbattere contro il famoso muro di gomma. Sta sbarellando un po', dai, su. Un po' sì, forse perché si rende conto che è tutto più complicato e difficile, bisogna avere più numeri. Se le prossime elezioni invece del 25... Eh beh, ho capito, ma non è uno può governare solo col 100% come dice lui. O prendo il 100% oppure niente, dai. No, certo. È una furia che mangia tutto, Grillo, sta distruggendo tutto, dai, una sorta di... Vabbè, ma che sia il suo destino, ognuno se la gioca... Dai, sta cosa pure vuole, che ha detto in un comizio sulla prostata... Beh, io preferisco sempre lui che parla anche di cose importanti... Alla noia, alla melassa maleodorante che molti giornalisti e molti politici riversano sul paese, quello è grave. Non che Grillo faccia il suo mestiere, che è anche quello del comico e di intrattenitore mentre parla di politica, secondo me. Poi... Ciao Bebo, a presto. Ciao, grazie ragazzi. Ciao, ciao. Siamo qui, Claudio da Pesaro, buonasera. Buonasera. Dica, caro, dica. Ma l'intervento che mi ha preceduto mi ha tolto un po' di, come possiamo dire, di tigna in tutto, perché ha parlato di vecchi porci. Sì. E qui io vivo in una zona dove di queste storie, diciamo le Marche, la Romagna, abbiamo sempre avuto nei paesi il gruppo dei vecchi porci, no? Quelli in giro così. Cioè? Io, ma a me non me ne frega niente. Quello che mi fregherebbe di sapere è, ammesso che non ci facevano altro che cenette a lume di candela, come il burlesque, ma io dico, ma di che cavolo parlavano tra ottantenni e diciottenni? Come passavano la serata? No, non erano proprio diciottenni. Rincoglioniti, si addormentavano. E giustamente le ragazze nelle telefonate li hanno definiti vecchi rincoglioniti, ma chiamateli con il nome e il cognome giusto, vecchi rincoglioniti. Buonasera. E vabbè, ma che ha fatto questo qua? Claudio? Luigi da Lecce, Parenzo, ci sei? Sì. Sì, mio nonno, Luigi da Lecce, buonasera. Salve, buonasera, Cusciani. Sì, prego, dica. Senta, io quello che voglio dire, le ha fatto il figo adesso, no? Nel senso che dice che ha dato il telefono per due prostitute russe, adesso lo deve dare a me quel telefono e vediamo se è capace di fare il reato in diretta. Ma che non c'è bisogno di fare il reato in diretta. No, me lo deve dare, se no non fa il figo. Mi deve dare adesso il tuo telefono e le tue russe. Ma non ho, io non ho detto che ho il telefono delle russe, Luigi, ho detto che ho dato un telefono di una persona che ha un giro di persone, le quali vanno a cena con te, poi se vuoi te le porti a letto, le paghi, non credo sia reato fare da intermediario, tra virgolette. Di che inviti Fede? Perché fa audience. E perché è una stronzata questo processo qua di questi tre vecchi che si vogliono scopare, ma le fanno tutti. E nessuno va in galera per questo. Vabbè. Va bene, grazie. Alessandro da Lecco. Pronto? Sì. No, io volevo dire un paio di cose rapidissime. Una sull'induzione alla prostituzione e l'altra sulla parola negro o negra che mi è parlato prima. Allora, che l'induzione alla prostituzione, lei mi insegna, non è il dare il numero di qualcuno che conosce delle prostitute, perché quelle lo sono già. L'induzione è, che poi sia vero o no, non lo so, nel caso di Berlusconi, ma è che una ragazza che non si è mai prostituita la si induce a prostituirsi in cambio di altri vantaggi. A parte che non è vero, No, sto dicendo, io non so se lì è vero o no, però l'induzione no, ma non è vero il fatto che è questa. Sì, ma parte... cioè, si intende questa, sì, ecco, ma alcune, alcune si prostituivano già, cioè secondo l'accusa, già. Però giusto per precisione, quella non è induzione. L'induzione è quando io lo faccio fare a una che non è una prostituta. Certo che se è già una prostituta fa il suo mestiere. Sì, ma scusi un attimo, se io metto in contatto una persona con un'altra, giusto? Anche ripetutamente, sì. Metto in contatto una persona con un'altra, no, ripetutamente. Sono d'accordo con lei, infatti. No, ma ripetutamente metto in contatto una persona e so, sì. Diciamo che so che tra quei due poi diciamo c'è un rapporto anche che ha a che fare col denaro. No, quella persona no, poi. Scusi, mi sono spiegato male io. Sono d'accordo con lei. No, faccio un esempio diretto. L'induzione è che lei mi presenta una ragazza e io gli dico: guarda, che se tu ti prostituisci con me, io poi ti do, non so, un posto in regione o un lavoro a Canale 5. Poi, per carità, che sia successo o no, non lo so, questo lo appureranno i magistrati, ma dico, l'induzione è questa, insomma, è far diventare una che non lo è, in cambio di qualcosa, non ovviamente, come dice lei giustamente, non è se lei mi dà il numero delle due russe, quella non è induzione alla prostituzione, ovvio, sono d'accordo. Carla dalla provincia di Torino. Buonasera. Dica. Allora, io sentire voi tutte le sere, mi autodistruggo da sola, perché divento pazza, mi viene il magone, e puttane, e troie, e questo, e quello. Quando c'è gente come me, con un figlio disoccupato, che non riesce a tirare avanti come me tanti italiani, sì, e sentiamo solamente parlare a voi, che avete il culo caldo, che tutti i mesi avete uno stipendio tranquillo, pulito, e allora? E sentire stronzate. Ma perché a un certo punto non parlate di cose serie che servono agli italiani? Ma vada a sentire da qualche altra parte. Allora, è logico, non mi sento più, perché fate venire un magone queste sere, pure come una droga siete, devo sentire le vostre stronzate. Lo so, Carla, il problema è questo, almeno si rilassa, perché deve sentire delle cose serie? Perché deve stare lì a sentire cose serissime? Vittorio? Eccolo. Due minuti, che è successo? No, niente, ho sentito questo Bebo Stordi. Bebo Stordi, sì, un attore. È un limite alle cose insensate, nel senso che uno può avercela con Berlusconi, con Brunetta, con la Santanchè, ma non può dire solo delle cose. Salusse, il giornalista di destra, che ha detto delle cose che possono essere... No, qualcuno mi dice, lasciamo perdere Bebo Stordi, qualcuno mi dice, io non conosco il reato di sfruttamento della prostituzione, diciamo, non conosco il reato di induzione alla prostituzione. Quello c'è, ma non è il caso di... non c'è da indurre nessuno. La presentazione non è una induzione. Tu presenti una donna a Zaccaria, a quello che sta con la Perilli, come si chiama Perilli, la Cattaneo, sì, al presidente della RAI, e poi lei decide. Non vedo, questo è stato il simbolo di Berlusconi, è il simbolo di uno potente per la televisione, per il cinema. Oltretutto poi la Santanchè, anch'essa... No, ma lascia perdere, qui dicono, questi magistrati dicono che ci sono, ma questa non è una cosa nuova, che ci sono delle ragazze che venivano, una sorta di giro, hanno utilizzato questa parola, orge bacchiche. Sì, ma l'orgia è legittima, lo sfruttamento presuppone una vittima che consenziente o meno sia sfruttata da Fede, non credo che nessuno abbia dato una tangente o denaro a Fede per avere avuto da Berlusconi il denaro che ha avuto o... una presenza in televisione. Istigare e sfruttare, pare che abbiano istigato e sfruttato l'altro. Nessuno. Però la frase grave dello Storti è: chi non fa male non ha processi. Allora vuol dire che hanno fatto male Pasolini, Oscar Wilde, Bertolucci. Bertolucci è stato processato per un film che si chiama L'ultimo tango a Parigi, dal moralismo grottesco che credo anche lo Storti consideri tale. Allora, che uno non ti piaccia non vuol dire che è giusto processarlo, che uno sia vecchio non vuol dire che non scopa. Moravia, sì, sposò una ragazza che aveva 20 anni, non ho mai sentito Storti o quell'altro che ha parlato dopo chiamarlo vecchio sporcaccione. Ma i vecchi vanno rispettati e sono talvolta degni di grande attenzione. Borges, Chaplin, perché sono intelligenti. Se uno è intelligente o potente, sì, c'è molto da dirsi fra donne e uomini, usando la ragione e non essendo razzisti con donne e uomini. Come Parenzo, ci sei? Mamma mia, io non lo so, tutte le volte tira fuori Moravia, non c'entra un cazzo Vittorio, non c'entra un cazzo Moravia, nulla! Caro imbecille, quanto a te, io ti ho visto con delle troie, ti ho visto e ti ho visto anche invitare delle persone di sesso particolarmente in vendita. Se poi non l'hai comprato tu perché sei avaro, non dici che non le conosci, sei un bugiardo, un falsario. Hai conosciuto puttane e le hai evitate perché non hai soldi e non li vuoi spendere. A lunedì 18:30. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Prendato, che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.